Madonna, per un pompino quanto casino. Ma in questo paese non si può più neanche scopare, figurati tu, ma è una cosa... Un paese va a puttane e noi non possiamo scopare. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Parenzo dice sempre che è di un'altra parrocchia, che è ebreo. Sei anche un ebreo. Tu sei ateo, ma che cazzo festeggiate la Pasquetta? Vi siete ripensati? Pandori, alla cioccolata, uova, colombe. Colombe. Poi dopo hanno bevuto gli amari, i limoncelli, il vino. Figa. Hai capito che hanno fatto? Si sono ingrassati, capisci? Sono andati al cesso 10.000 volte! 10.000 volte! Hai capito? Hai capito? E adesso ritorniamo a lui. Io sono andato a puttane a Sofia. Che cazzo sei andato a fare a puttane a Sofia? Sei impazzito? Scusa, c'è bisogno di andare a puttane a Sofia? Basta andare in Svizzera o in Italia? Basta fare una telefonata in Italia e vai a puttane? Ma sei andato per... E ti spiego, perché io sono divorziato dopo 17 anni e volevo fare un viaggio a buttare soldi. Casino e puttane, questa era la mia... E hai scelto Sofia? Hai scelto Sofia? Ho scelto Sofia, che non si paga un cazzo, ok? Volevo dire questo. Allora, io ho iniziato il mio rapporto che ero 70 kg, ero un ballerino. E facevo il ballerino latino e scopavo notte e giorno. Ho finito il mio rapporto che sono 140 kg e sono ipovedente. Né chi cazzo me la dà una donna a me? Parenzo? Questo è il numero uno. Ma allora, magari sei anche mini dotato. No, tengo un bel cazzo, non ti preoccupare. Dacci, miserabile! Ragazzi miei! Io non capisco, Parenzo, perché ci criticano per il fatto che ieri non c'eravamo. Ma saremo padroni? Saremo padroni di farci i cazzi nostri per un giorno? Certo, saremo padroni altro. O no? Però è vero. Anzi, anche stasera, anche adesso. No, no, guarda. Adesso no. Che sì. No, no, no, io già fremevo. Già facciamo assaggiare la sigletta maledetta che ha fatto il solito maledetto regista lì, mettendo insieme quella cozzaglia di insulti. Gli facciamo assaggiare l'odore della zanzara. Gli facciamo casa. No, no, non fare pagati così. Uguale ma non casa. Fare così lo snob. Come è andata ma no. A Cortina a proposito? Molto bene, molto bene, molto tre bene. Giorni pagato lì a Cortina, a rilassato. Culo, mi hanno detto che c'è stato un calo dell'uso dell'acqua a Cortina. In genere, durante i periodi di vacanza, a Cortina c'è il picco dell'utilizzo dell'acqua. Mentre da quando sei andato tu lì, siccome ti lavi notoriamente pochissimo, c'è stato il calo assoluto. Cioè mi sono fatto due docce perché ho corso per due giorni. Dunque ho fatto due docce consecutive, un giorno dopo l'altro. Non mi succedeva, credo, da 10 anni. Bravo, bravo. Vabbè ragazzi, un po' hanno ragione quelli che protestano per il fatto che ieri non c'eravamo, un po' hanno ragione. E devo dire che Pasquetta, mi sa che abolirò questa cosa di Pasquetta. Sì. Le nostre vacanze a Pasquetta verranno cancellate dal prossimo anno. Cancellate, sì, cancellate, cancellate. Allora, chiamo Landini della FIOM immediatamente, facciamo un'avvertenza Radio 24 subito. Con tutti i problemi che ci sono a Napoli, amico mio, tutti i problemi che ci sono a Napoli, il sindaco De Magistris, De Magistris, sempre sul pezzo De Magistris, nella difesa dei diritti dei napoletani, vuole tutelare l'immagine della città di Napoli, capito? Vuole tutelare l'immagine dalle critiche, da chi diffama Napoli. E recluta un intero ufficio con degli avvocati, pare, pronti a entrare in azione, gli avvocati, per portare in tribunale chi critica la città, chi diffama la città. Follia. Ragazzi, è incredibile. De Magistris, contro le critiche a Napoli, vuole portare in tribunale chi attacca la città partenopea. Io dico una cosa, ragazzi miei, ma i cittadini di Napoli, vabbè, che per carità ha sempre ragione chi vince, dunque De Magistris si prende un sacco di voti e va benissimo, ma non si rendono conto della follia. C'è il fatto stesso che si perda del tempo a compilare dei moduli, perché c'è un manifesto, dei moduli, un assessore che fa queste cose, la gente scriverà, gli avvocati che entreranno in azione. Il fatto stesso che si perda tempo non per risolvere, che ne so, la gente che va senza casco. Appunto, ma tappassero le buche delle strade. L'estetica della città. La monnezza, per dirne due, tre, ma ce ne sarebbero altre 200. Leggo, per esempio, oggi che c'era un sacco di gente in giro per Napoli, ma l'ANSA dice la città in mano ai commercianti abusivi, agli ambulanti abusivi, tipo quello che abbiamo sentito l'altra volta. La città padroni gli ambulanti. Perché non risolvono questo problema invece di rompere i coglioni a quelli che criticano Napoli? De Magistris. È uno sportello amministrativo, giudiziario, istituzionale e politico di difesa della città e di racconto corretto di Napoli in tutte le sue poliedriche sfaccettature. Se uno produce un danno deve risarcirlo, poi le modalità di risarcimento possono essere più varie, però sì, siccome è una città che ha bisogno anche di risorse economiche, proprio per migliorare anche quelle piccole cose che noi chiamiamo appunto decoro, arredo, qualità della vita quotidiana per i napoletani prima ancora che per i turisti, è anche un modo, quando ci sono azioni manifestamente diffamatorie, per arrivare anche a quello. Cioè praticamente vogliono far cassa, dai! Vogliono querelare, che ne so, Libero, Facci, il sottoscritto, oppure altri, che magari sintetizzano il loro pensiero in un Napoli fa schifo. Esistono dei siti che sono Roma fa schifo, ma non è che Roma o il comune di Roma querela questi siti semplicemente perché si dice Napoli fa schifo. Il mio amico Facci, per esempio, ha più volte scritto Napoli fa schifo. Lo quereliamo? Che vogliamo fare? Lo vogliamo portare in tribunale e prendergli dei soldi? De Magistris, rispondi. Gli vogliete togliere dei soldi? Ma dai. Dai, su, ma è patetico, dai. Vabbè ragazzi, un'altra roba riguarda il sindaco invece, un altro sindaco di una città che si chiama Amatrice, sì, il sindaco Pirozzi. È Pirozzi. L'ottimo Pirozzi, sì. L'ottimo Pirozzi, tu dici l'ottimo Pirozzi, benissimo, l'ottimo sicuramente Pirozzi, ma non ha delle grandi non capacità devo... mediatiche, quello è sicuro. Ma non solo, ma anche una presenza, una capacità di... Non lo so quello che mi sta facendo. Mi pare sia molto so, a mio quando sono stato ad Amatrice, come sai, ho visto una città che si è stretta intorno al suo sindaco. Comunque se la prende con i turisti dei selfie, cioè quelli che si fanno i selfie. Certo. I selfie vicino alle macerie, sciacalli che andrebbero tassati, sciacalli. Siete razzisti? Siete razzisti? Non voi, tu e Pirozzi, siete razzisti. Se tu razzisti. Difendi quelli che si fanno i selfie sulle macerie di una tragedia. Non è che li difendo perché lo farei, non lo farei perché mai. Perché non fai l'agenzia di viaggi Cruciani Tragedia, ad esempio? Ma cosa vuol dire? Ma che fai cazzo l'agenzia c'entra? Di viaggi Cruciani Ma Tragedia. Cosa vuol dire? Organizza un pullman che va a Cogne, ad esempio. Ma bellissimo. Dai, organizza un pullman a organizza Ma un pullman Ma che va so... a Erba a fotografare i luoghi della strage Ma di perché Erba. Uno non ha diritto di farsi un selfie accanto alle macerie? Non ha diritto. Ma tu fai schifo, tu fai schifo. Siete razzisti del turismo, volete discriminare tra quelli che vanno lì e magari spendono e vogliono farsi un selfie, sì, un selfie tra le macerie e quelli che non lo vogliono fare, che fai, li cacci? Che fai, li cacci? Che fai, li tassi? Che fai, virgola, li tassi? Ma che li tassi? Ma voi pensate sempre alle tasse, come mai? Ma no, le tasse, tu pensi se sempre uno, alle tasse, mettiamo una tassa, che cazzo? Le tasse sono bellissime, le tasse. Le tasse, Parenzo, due punti. Le tasse sono bellissime. Ma non disse Pado a schioppa. Ma tu stai dicendo la stessa cosa, comunque. Sì, ma è vero, tecnicamente è vero. Ma che è vero, una puttanata, le tasse sono orrende. Se ci fossero i servizi, sono orrende. Le tasse servono a far andare avanti lo Stato, sono comunque orrende. Comunque orrende. Ma come comunque? È un paese che va avanti. Lascia perdere, le tasse sono comunque orrende. Poi uno le deve pagare. Ma sono comunque orrende le tasse, non sono belle. Sono comunque orrende. Le tasse stanno sui coglioni. Non puoi dire che le tasse sono bellissime. Ma ho capito, stanno sui coglioni perché non si vedono i servizi, ma non in astratto. In astratto sulle... mi stanno sui coglioni a me le tasse. Che ti devo fare? A me le tasse mi stanno sui coglioni. Poi le pago fino all'ultimo centesimo, mi stanno sui coglioni. Questo mi risulta diversamente. No. Vabbè, intanto lo diciamo. Ma come lo diciamo? Ma stai dicendo una cosa gravissima. Ma sì, un tanto anch'io lo diffamiamo un po', dai. Tanto che ti frega? Piccolo Pirozzi. Controllino della GDF, dai. Dai, appunto. Dai. Pirozzi. Che ti frega? Forse un po' sconsigliato ai turisti del dolore perché qualcuno ha scacciato in malo modo di venire a fotografare le macerie, a farsi i selfie, no? È una forma di rispetto, ma l'ho cacciati, mi sono pure incazzato, scusate. li ha cacciati. Bravo. Ha cacciato i turisti. Tu ti rendi conto? Uno va ad Amatrice, che già non è facile, no, arrivare. Vai ad Amatrice per farti un selfie, magari, ma per la strada turisti? Spendi qualcosa. Ma che cosa spendi? Spendi qualcosa, anche solo un euro, no, da un piccolo tabaccaio. Ti fai una foto? Ma 10 vai, euro. Su. Alle casse razzisti, del comune. Ti siete fai razzisti? Una foto con le macerie? C'è il diritto, 10 euro alle tasse del comune. C'è il diritto alle di farsi una foto. C'è il diritto di farsi una foto davanti alle macerie. Ma no, io non lo farei mai, figurati, non me ne frega un cazzo. Macabro. Mi stanno sui coglioni anche quelli che si fermano sul bordo della strada, dell'autostrada, appunto, per vedere un incidente. Appunto, bravo, appunto, ma che appunto, c'entra? Mi stanno sui coglioni. Cioè, è chiaro che mi stanno sui coglioni, ma se mi dovessi odiare, dovessi fermare o picchiare tutti quelli che mi stanno sui coglioni, amico mio. Cioè, no, ma infatti io non picchio nessuno, lo tasso. E dai. Allora, Sgarbi, che mettiamo di Sgarbi? Mettiamo più fascista Grillo che Casa Pound. Vai, sentiamo questo. È andato a Casa Pound a Parma, se non sbaglio. Ha detto più fascista Grillo, sì, che Casa Pound. E poi Pound. Ha candidato sindaco un mio amico, peraltro. Spettacolare, vai. Sindaco di Parma. Casa Pound per me non è un partito, è un'associazione come tanto, come Rotary. Non ho mai letto in una lista. Voi avete mai visto Casa Pound su una lista? Quindi si parla... Sarà l'elezione amministrativa. Non lo dicono loro. Mi pare molto più di destra Grillo e i suoi, tra l'ignoranza, la stupidità, la coglionaggine, le false comunarie, cioè non c'è niente di peggio, non c'è niente più di destra e di più fascista di quello che ha fatto Grillo. Più fascista Grillo che Casa Pound. Effettivamente non è che poi abbia così tutti i torti, signor Sgarbi. Quelli di Casa Pound non saranno contenti quando dice che un'associazione come il Rotary. Un'associazione. Sì, ma Rotary non poi, mi pare. Poi si è come già... il Rom Tari, se mai, allora, visto che come i Rom occupano le case. Oddio, come i Rom che fissazione. Tari. Allora, sapete che Di Maio si oppone all'apertura dei negozi Di la domenica. Abbiamo già detto, ma è Di Peio quando fa queste cose. No, Di Maio. Dice Di Maio che rovina le famiglie. Sì, chi rovina le famiglie? Sì, lui ha detto, Di Maio, che lavorare la domenica e i festivi rovina le famiglie italiane, amico sì, mio Di Maio. Lui non sa che sono famiglie italiane non che grazie ai festivi... Sei un sociologo? Da che cosa sono rovinate le famiglie? A parte che le famiglie, la gente si lascia per mille motivi. Non certo dal fatto che qualcuno lavora il sabato e la domenica. Ma che cazzo dici, Di Maio? È impazzito, cioè è impazzito completamente. Sgarbi su Di Maio, dai. Ma io non ho mai sentito una idiozia così totale espressa da una personalità istituzionale che è anche carino da vedere, poi ogni tanto si ammala e ha quell'aria deperita che induce compassione, ma non la merita. Più una Tania, meno Parenzo. Più una Tania, meno Parenzo. Traffico. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it. Vi presenta La Zanzara. Perché ti sta sul cazzo La Zanzara? Chi è? Perché fanno cagare. Perché fanno cagare? Perché dicono un sacco di stronzate. Ascolto ogni giorno La Zanzara, vado a Mignotte e tradisco la mia donna, andrò sicuramente all'inferno. Allora, secondo la teoria di Di Maio, del giovane Di Maio, del webmaster Di Maio, Parenzo Di Peio, sì, abbiamo detto. Secondo la sua teoria, tutti quelli che lavorano la domenica, che so, camerieri, tantissima gente lavora la domenica e il sabato, pieno, no? Tantissima pieno, gente. Mica solo camerieri. Cioè, tutti single dovrebbero essere, tutte con le famiglie rovinate, tutti con le famiglie sfasciate. Dai, su, ma che puttanata è? Cioè, saranno i consigli del professor De Masi, forse, che dice lavorare meno, lavorare tutti? Boh, chissà. Francesco da Napoli, iniziamo con la rumba. Parenzo, iniziamo con la rumba. Francesco, iniziamo, vai. Sì, caro Cruciani. Che vuoi, che vuoi, Francesco? Caro Parenzo. Che vuoi? Che sei neoborbonico? Sei neoborbonico? Ma sono assolutamente demagistriano. No, demagistrisiano lì, demagistrisiano, di come voi. Vabbè, ma è legittimo votare una marea e soprattutto vi farei notare che non è solo quel popolotto beota o bue che volete ogni volta rappresentare, ma è anche l'altra Napoli, l'altra Campania, quella probabilmente borghese, è perché date sempre la stessa immagine noiosa. Noi non diamo nessuna immagine, amico mio, non facciamo i sociologi, non fare il sociologo. Ma che vuoi, Francesco? Ma cosa vuoi? Non ho capito. qua Renzo, anzi che no, ma non ho capito cosa vuoi, Francesco, lo sai, spiegami. E te lo dico io cosa voglio, che sei, cioè, ha fatto bene De Magistris? Ha fatto bene? Benissimo, benissimo. Ma dai, a me sembra una follia. Se vi piace così, se vi piace il fatto che di spendere dei quattrini per fare un ufficio inutile, li spendete voi quando andate a comprare i giornali, i giornali come Libero e quelle altre robe. Che facciamo, li cancelliamo? Li cancelliamo? Non dovete cancellare assolutamente, ma non dovete, tu soprattutto Cruciani, non devi dare voce e spago a queste cose. Vabbè, Francesco, io non ho capito una cosa, ha fatto bene? Benissimo, dunque querelare e portare in tribunale chi parla male di Napoli. Cruciani, a parte che cambiare registro, no, chi sei? Il Duce? Chi sei? Non no, ho capito. Cruciani, ma assolutamente, no, ma io ti ascolto, vedi, entro in macchina, vado a casa, ti ascolto e vi ascolto. Dovete cambiare registro, ma che è? Secondo me, e ti spiego anche perché, se mi fai dire, perché se tu ogni giorno, ogni sera, giustamente, vai contro le ipocrisie, contro i luoghi comuni, su mignotte, trans, politici, tutto quello, giustamente, perché l'ipocrisia va combattuta, poi è paradossale che tu e l'ottimo Parenzo cadiate su una buccia di banana. Ma come sarebbe? Ma quale sarebbe? I napoletani, tre sul motorino, la città con la spazzatura. No, io non ho detto nulla, amico mio. Io ho detto semplicemente. Io vengo spesso a Napoli. Fenomeno, io non ho nessun pregiudizio. Io ho detto semplicemente una cosa: che spendere dei quattrini e mobilitare un ufficio per querelare chi parla male di Napoli, a torto o a ragione, qualcuno può sbagliare, certamente, generalizzando, è una follia per cercare di fare cassa. È una follia. Allora, se vuoi saperlo, caro Cruciani e caro Parenzo, non credo che il sindaco spenderà dei soldi. Io non faccio parte di nessuna associazione. Un ufficio lo crea. C'è un affare, un ufficio, ma amico mio, ma già anche legali, che probabilmente anche a titolo gratuito sarebbero ben contenti. Sì, ma già fare un ufficio è una follia. Ma che vuol dire l'onore della città? Non esiste l'onore di una città, esiste una città se funziona. Ma quali provocazioni? Ma chi dice qual è l'onore di una città? Ma che dici? Ma Roma, si può dire che Roma è sporca? Si può dire che Roma è sporca oppure qualcuno si arrabbia? E allora che il comune di Roma ti fa, ti querela, ti porta in tribunale se lo dici? Siete voi che siete ipocriti, perché se io vado su YouTube, accendo e metto La Zanzara, trovo decine di puntate su Napoli, ma non trovo decine di puntate su Roma. Mi vuoi portare in tribunale? Che è diffamazione questa? No, è no. E questo vuole fare ipocrisia, il sindaco, questo lo vuole fare. È pigrizia, perché usate. Ma questo poi tu puoi avere tutte le ragioni del mondo, ma non c'entra nulla con quello che vuole fare il sindaco. Vabbè, ciao. Federico da Roma, vai, Federico da Roma. Buonasera a tutti. Dimmi. Non vorrei andare fuori tema, però ma non c'è tengo... nessun tema. Vai. Meno male. Ci tengo a raccontarvi un'esperienza che parte da dall'ultima vostra puntata, dove quando la Iena vegana è intervenuta. Sì, ma Iena vegana, quando io ho detto Iena vegana, non si riferiva al fatto che fa parte delle Iene, viene chiamata così, c'è un movimento che si chiama le Iene vegane, ma non ha nulla a che fare con la trasmissione italiana. Le parole mi hanno fatto riflettere, e anch'io ho deciso, come la Boldrini, Berlusconi, di adottare un agnellino a Pasqua. Bene, allora? L'ho chiamato Coratella coi carciofi. Come hai chiamato? Coratella? Coratella coi carciofi. Ah, l'hai chiamata l'agnello? Sì, l'agnellino, sì. Vabbè, ed allora? Era strepitoso. Che te lo dici da solo? Te lo dici da solo che è strepitoso? E non l'ho cucinato io, quindi non è che mi era strepitoso. Me l'hanno cucinato, era buonissimo. Vabbè, allora? Fino a quella data lì, la categoria che mi faceva più schifo era quella dei finocchi. Ora invece In che senso ti fanno schifo i finocchi? Fino a quella data era quella la categoria. Cioè ti fanno schifo i finocchi? Sì, la categoria in generale. Ma non esiste la categoria dei finocchi, sono le persone. È una lobby certificata, non mi puoi dire tu che non esiste una lobby certificata. Ma non ho capito, ti fanno schifo i finocchi? Che detto vuol dire? Già il fatto che li chiama finocchi. Data, sì, adesso vincono i ma vegani. Che vuol dire? Pensate. Che ti fanno schifo i finocchi? Spiegami. Cosa vuol dire? Che in italiano mi sembra abbastanza ti eloquente. Fanno schifo, cioè uno che è gay ti fa schifo. Ti fa schifo un gay. No, tu hai detto no, mi fanno schifo i finocchi. Quello che vogliono rappresentare. Ma cosa vogliono rappresentare? Non vogliono rappresentare nulla. Se mi fai parlare. Se io volessi incontrarmi carnalmente con un Alano Arlecchino, non andrei in Parlamento a chiedere una legge il giorno dopo. Ma non è la stessa cosa. Unirsi... Loro sono così. Ma loro scusami, tombano e vogliono le leggi ad hoc per loro. Scusami, ma andare con un cane non è la stessa cosa che andare con... Non me lo confondere con gli altri. Vabbè, un Alano Arlecchino, non so manco se è una razza l'Alano Arlecchino, evidentemente sì perché conosci i cani. Andare con un Alano Arlecchino non è come andare con Federico da Roma. non è la stessa cosa. Se un gay ci prova con te, non è come se ci provasse con un cane. Appunto. Ma io non è che cioè, non è una cosa soggettiva. Dunque, se un gay ci prova con te, che fai tu? Se un gay ci prova con te, che fai tu? Niente, mi giro e guardo dall'altra parte. Non ma nessuno violenza, ci prova con questo schifo. Federico. Nessuno, né uomini, né donne, né animali. Nessuno ci prova con Federico De Roma. Rassicuriamolo. Lei ma io è non una capisco una cosa sola. Nessuno ma cosa c'entra con l'unione con un cane e l'unione con, una, dai, con un uomo? È una e cosa diversa. Loro si accoppiano come cani e vogliono le ma perché si accoppiano io come cani? Si accoppiano come te. Si accoppiano come fai te. Si accoppiano come fai te. No, lui non si accoppia. Ti sbagli proprio. Lui è da solo. È da solo con Federica. E lasciamo stare. Sei impotente, Federico? Sei impotente? No, ad oggi no. No. Due figli. Ti accoppi? Dicono cose diverse in giro. Due figli non comprati su eBay, attenzione, fatti ma regolarmente. Nessuno compra i figli su eBay. Aspetta 2-3 anni e poi vedremo. Sì, vabbè, ma dove? Nella tua testa bacata qualcuno può comprare i figli su eBay. Il traffico. Siete stati proprio voi a contattare una ditta in Russia che ti faceva ordinare quello il bambino che c'entra come con eBay. Volevi. Che c'entra con eBay? Cosa. Vai là in Russia, vai là in Russia, devi fare l'inseminazione artificiale. Può comprare o no? Ma certo, ma io sono il primo a dire, okay, ma non su eBay, non su eBay. Ma che cazzo c'entra eBay? Ma cosa c'entra eBay? Ma non c'entra niente che ti comprano un bambino, c'è una procedura diversa. Non è la stessa cosa che comprare su eBay, no? Madonna mia. Madonna mia. Diventato pignolo. Ma che sei, napoletano di Roma? No, no, assolutamente. Prendo anzi totalmente le distanze dalla regione. Ciao, Federico. Ciao. Prendo le distanze. Viva i fraci, viva i fraci! Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Siamo il top, siamo il top, siamo il top! Ciao, ciao, Ricchione. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta La Zanzara. Ciao Giuseppe, Maurizio qua di Pordenone. Volevo parlarti della Lucia. Sono andato a farmi fare qualche boccaglio così. Quante volte sei andato da Lucia? Due volte, ma anni fa. Tu quel camper che è più vecchio di lei. Vabbè, ho capito, lei, ci sei andato lei tu la vedi. Non è che ci sei andato lei, io. Lei la vedi, ha una parrucca in testa di lupo pezzato, non so, schifosa. Ma non credo, parrucca schifosa, il camper schifoso, eccetera, sei andato da lei, perché? Ero stato a una festa a Trieste, venivo a casa, ho detto, facciamoci fare un servizietto, no? Ma certo, una pompa in piedi, lì e via. Una pompa in piedi, lì e via. Senti, Cruciani, è la brace, con carne, cinghiale, pollo. Buon appetito. Beh, prendi il coltello, prendi il coltello! Gaia e gioia, Gaia e gioia, meglio Gaia, gioia è un po' stupposa. Bello quel rumore della friggitoria, quel rumore della brace. Sono, come dire, fotografie dell'Italia normale, sì, fotografie dell'Italia che ha passato 2-3 giorni con le proprie tradizioni, magari con i propri cari o con gli amici. Anch'io ho fatto una grigliata, una enorme grigliata, una enorme grigliata. Ma è normale, non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo, Parenzo, perché uno dice, no, stai dicendo questa cosa per far rabbia a qualcuno, per far incazzare qualcuno, ma no, non ci sarebbe bisogno di dirlo, no, perché qualche anno fa non è che uno diceva ho fatto una grigliata a Pasqua, normale, no, certo, non lo diceva, ma naturalmente, sarebbe naturalmente stata una cosa nemmeno da dire. Adesso invece, di fronte a questa ondata estremista e fondamentalista, c'è bisogno di dirlo, di far ascoltare le voci dell'Italia normale, normalissima. Naturalmente. Di Maio colpisce ancora sui congiuntivi. Ma io non lo critico mai su questo, perché... Ma quello è il suo lato migliore, diciamo, rispetto a tutto il resto. La normalità, si mette a livello... Quello sì, esatto, si mette in sintonia con l'80%, penso, del suo elettorato. No, del suo elettorato normale. Ma no, stai dicendo che chi vota 5 Stelle sbaglia i congiuntivi. È ignorante. Sto dicendo che si mette in sintonia con l'80% del suo elettorato, ma non è così. Questo il tema. Il problema è anche il contenuto di quel che dice, oltre di come lo dice. Di Maio, onorevole Di Maio. Quindi non ha nulla di cui scusarsi lei su questo? Io non ho nulla da cui scusarsi, Antonio. Se non si dovrebbero scusare quei radical chic che stamattina mi attaccano. Bello questo, se non si dovrebbero scusare, bellissimo, se non si dovrebbero scusare quei radical chic che mi attaccano, meraviglioso. Sgarbi sui negozi chiusi, su questa polemica ridicola, diciamo la verità, polemica ridicola. A me non interessano le cose sindacali, cioè quanto bisogna prendere per lavorare la domenica. Beh, no, è giusto questo, è un dibattito serio. Ma non mi interessa. Dibattito serio, quisquilie. No, fanno male a dire che la domenica di Pasqua e la Pasquetta deve essere pagata come fosse il primo maggio o il 25. Per me la domenica va pagata come un giorno normale. No, la domenica va pagata come un giorno normale. E te lo dice uno che non è dipendente, sottoscritto. La domenica va pagata come un giorno normale. I diritti dei lavoratori non vanno intaccati. Ma che cazzo c'entra? Ma che c'entra? Se uno ha un contratto a tempo indeterminato, è giusto che gli venga remunerata la domenica come fosse una giornata, no, come è una giornata di festa. Questo è giusto. Togliere i festivi. Io sono per togliere i festivi. Se uno lavora la domenica o il sabato, va pagato come se lavorasse lunedì, martedì e mercoledì. Te la semplifico così. Tu non lavori così. Quando lavori del sabato e la domenica, ti pagano di più. Ma io sono una partita IVA. Dunque dovresti essere a favore di questa cosa qua. No, sono a favore a che i diritti dei lavoratori. Un momento. Negli anni 70, gente come Cruciani o i padroni dell'outlet sarebbero stati presi a calci nel sedere. Gli avremmo assediato quel cazzo di outlet, circondato completamente. Intanto ho fatto un piccolo esproprio, ho portato via tutto quello che c'era dentro e distribuito alle famiglie degli operai protestanti. Ma dopodiché andato, ci saremmo barricati ovviamente con il vitalizio saremmo arrivati lì in tanti ci saremmo barricati all'interno della struttura cosiddetta outlet e non saremmo più usciti di là. Un grande piano di occupazione per dei giorni, molto bello, tutto bloccato completamente, bandiere rosse che garriscono dalle torrette, garriscono le bandiere rosse lì che sventolano meraviglioso, democrazia proletaria, la violenza e la rivolta, bellissimo. Scappavano i padroni, sassate contro le macchine, queste Mercedes, queste Audi, sgommavano via, inseguiti, li avremmo inseguiti. Ma dei chi? Sassi, i clienti, meravigliosi. I clienti, chi? San Pietrini meravigliosi che con delle piccole picozze che abbiamo nel design. Arrivano i proletari. I proletari sarebbero stati con noi, perché ovviamente avremmo regalato ai proletari tutti gli oggetti che stanno all'interno di questo cosiddetto outlet. Ma perché? Quali Audi? La gente che va là è gente. Io parlo dei padroni che sono proprietari di queste mega strutture, che sono cosiddetti non luoghi, noi li chiamiamo, cioè luoghi nei quali viene replicato il mercato in modo indistinto. E invece va valorizzato il piccolo negozio, non la grande marca, capito? La grande marca va assediata. Assediare la grande marca. Va distrutta. Vabbè, Yuri da Roma, vai Yuri. Yuri Checchi. Ah, bellissimi. Dimmi, che cazzo vuoi? Questo che si fa le canne, questo qua. Quante canne ti sei fatto, Yuri? No, raga, sto in bianco, basta canne per un attimo, pausa di riflessione. Ma perché? L'ultima volta che ti sei fatto una canna quando è stato? Stamattina? Stavo in grana, c'erano i soldi e faccio come mi pare. Mo quando è, tocca un attimo, no? Ma non ho capito, adesso, l'ultima volta che ti sei fatto una canna, quando è stato adesso? Ieri sera, perché me l'hanno regalata. Vabbè, ieri sera appunto, non è che ieri sera, vabbè, quella della buonanotte, cioè tu vai a dormire e vai a dormire sereno, no? Beh, oddio, non è che dato tutta la gente va a dormire dopo essersi fatta una canna, amico mio. Non è proprio di uso comune in Italia, eh? Cioè, non è che tutti fanno così. Tu fai così, tu Yuri fai così. Cioè, tu riesci a dormire meglio solamente con le canne? Quando mi rode il culo, sì. Quando mi rode il culo sto una bomba, mi metto lì davanti al computer con una cannetta e si va a dormire. Si va a dormire tranquilli, dici. Ma è una meraviglia. Ma scusa, c'è la camomilla, ci stanno altri rimedi, però la canna, cioè, è un'altra storia. Cioè, si dorme più tranquilli, più rilassati con un cannone, o no? Sì, sì. Allora, che mai chiamato a fare? Ma se, guarda, mi rifà un favore, ma mi spieghi meglio di Maio come se ne è uscito e perché, in che contesto? Amico mio, non è che te lo devo spiegare. Senti, guarda, mi è partita la brocca, mi è partita la brocca. Cioè, perché? Contro di Maio a favore? Mandarlo, capito, no? Un po' a quel paese, no? Sì. Come, perché? Perché? Lui perché dice che la domenica, nei festivi, non bisognerebbe lavorare, in sostanza, perché... i festivi distruggono un po' l'unità familiare, il fatto che qualcuno lavori il sabato, la domenica. Tu quando lavori? Quando lavori, Yuri? Io, guarda, per questo io ho cominciato a lavorare a 15 anni e solo di domenica, per 10 ore al giorno, 25 Bravo. Euro. Allora, io dico... Dunque, te vuole rovinare? Ma, te vuole... ma perché non se ne va a fanculo un attimo? Beh, adesso se queste cazzate? Sì, cioè, voglio dire, siamo uno stato laico, no? Vabbè, la domenica dovrebbe essere un giorno normale. Però c'è, cioè, la famiglia, ogni famiglia c'ha i cazzi sua e se li tagliano loro il loro tempo libero. Sì, assumo, allora, con questo linguaggio... C'è lui che mo far bello, c'ha i soldi, c'ha notorietà, cioè c'è gente che si rompe il culo e c'è gente che viene cacciata anche dal lavoro malamente. Vedi Davide, cioè, col suo linguaggio... Non mi toccate il lavoro, ste cazzate siete né per lui. Ecco, con, cioè, questo... Non, adesso non conosco i limiti della diffamazione, ma veramente ce lo dovrei mannare. No, ma paese. Non ti preoccupare, stai tranquillo. Allora, Parenzo, con questo linguaggio molto rude, molto ruvido e molto diretto e semplice, Yuri ti vuole far capire una cosa, Yuri, però. Yuri, che il signor Di Maio... Yuri, perché che cosa hai contro Yuri? Perché si fa le canne, hai un pregiudizio? No, cosa? Una persona che ha una lucidità limitata, ma andiamo avanti. Ma perché? Ascoltiamo il ragazzo. No, ascoltiamo, abbiamo ascoltato, dice di essere a favore del lavoro il sabato. La domenica. Benissimo, io sono d'accordo. Signor con lui Capanna, cosa ha da dire a questo Yuri? Che è dunque, schiavo delle multinazionali. Caro giovane Yuri, devi sapere che in realtà si deve lavorare dal lunedì al venerdì per poche orette al giorno con un salario garantito molto alto. Questo nel nostro mondo dei sogni, ovviamente. Capito, il motivo per il quale abbiamo lottato per 50 anni occupando scuole, università, regalando il 6 politico a chiunque, occupando bello, le case e occupando le fabbriche e cacciando a pedate nel sedere tutti quei padroni che usavano alzare semplicemente la testa, scappavano come conigli, capito? Beh, come ho capito, conigli. Dunque sei contro Yuri, vabbè, dunque sei... garrisca la bandiera rossa in ogni fabbrica outlet, italiana, immediatamente si occupino tutti gli outlet, si blocchi questa economia maledetta del mercato, si blocchi tutto, tanto io comunque il mio piccolo stipendio l'ho preso perché ho il vitalizio, quindi certo. Si blocchi immediatamente tutto, meraviglioso, e mi piace fare questo appello dalla cosiddetta radio della cosiddetta Fu Confindustria, mi pare si chiami ancora questo. Fu Confindustria. Non esageriamo, insomma. Tra l'altro non ho mai capito che cazzo è il Sole 24 Ore, che quando mai si è visto il Sole 24 Ore, non si è mai visto. Tu dici non si è mai visto. Si è visto in alcune ore del giorno, ma non si vede 24, mi pare una follia, già questo ti dà l'idea di che paese viviamo. Ma avete un giornale che si chiama Sole 24 Ore. Che è una contraddizione in termini. Ma è una contraddizione in termini, questa gente qua dovrebbe andare a lavorare. Giuseppe da Chieti, vai Giuseppe, dimmi. Capanna è sempre così, non c'è da fare. D'altra parte è Capanna, Giuseppe, vai, dimmi. Come l'ha cucinato le tre testine di agnello? Non l'ho cucinate. Oh, mamma mia, questo. Sì, questo è un coglione, il solito coglione. È sì. Pazzesco questo. Non l'ho cucinate le tre testine di agnello, amico mio. Non te le ha fatto cucinare? No, non le ho cucinate. Non le ho cucinate. Che ci ha fatto? Ma sono cazzi miei quello che ho fatto, che te lo devo venire a dire a te. Luciano, stai un po' calmo. Le ho comprate e le ho gettate. Le ho comprate e le ho gettate. Chiaro? Non ti si può chiedere che cazzo stai. Le ho gettate. Sarò padrone di comprare delle cose e buttarle? Oppure no? Bravissimo, super Cruciani. Vabbè, no, nessun super Cruciani. No, sei super Cruciani, super raccomandato del cazzo, super puttaniere. Sì, vabbè, che vuoi allora? Divulgatore scientifico, no? No, quello no, mai avuto la pretesa di esserlo, nemmeno le altre cose. Ma c'è, sono 10 anni che fai questa trasmissione, sei rimasto a dire tonnellate di male parole, che cazzo vuoi fare da gran? C'hai più di 50 anni, no? Ma come ti parole, vedi ma chi è questo? Scusa, tu da quanto tempo lavori nel presunto mestiere che fai? Io lavoro, tu, sì, tu lavori, parate, tu passi il pomeriggio a chiamare la zanzara, altro che lavori, no. Non fai un cazzo tra mattina alla sera, fai. Ti sfoghi così perché sei un uomo solo a Chieti, me l'hanno detto a Chieti, le mie entrature. Sei un uomo solo. Mo sei un uomo io solo. Non sono di Chieti. Sei un uomo. Vabbè, dov'è l'Abruzzo? Quello che è. Sei un uomo solo, devastato Cruciani. Dalla solitudine. La tua perché compagna ti ha lasciato, i tuoi figli ti hanno ripudiato. Ripudiato. Ma che ne sai tu? Che ne sai? Fermo lì, fermo lì. Fermo, coglione, fermo. Lasciati uno, Parenzo, e alla defecarsi non ci penso. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. vi presenta. Corrono, giocano, ci vogliono bene. Sono felici con noi. Da oltre 50 anni Monge nutre i vostri amici a quattro zampe con ricette di qualità, senza coloranti e conservanti. Bocconi cotti al forno e crocchette con carne fresca. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stanco dei rendimenti bassi per i tuoi risparmi? Aspettare mesi per un prestito alla tua azienda ti distrugge? Cambia marcia con borsadelcredito.it. Su borsadelcredito.it puoi ottenere un finanziamento per la tua azienda in soli 3 giorni. È facile e fai tutto dal tuo PC. Oppure puoi investire in aziende sane in tutta sicurezza, con un rendimento più alto del 5% e con la massima trasparenza. Presta o richiedi credito. Tutti ci guadagnano con borsadelcredito.it. Messaggio promozionale che non rappresenta sollecitazione all'investimento o all'acquisto di prodotti finanziari. Cos'è la comodità? È vedere la partita disteso sul divano con qualcosa da sgranocchiare. Cos'è il comfort? È vedere la partita disteso sul divano in una casa isolata dove ti fare a squarciagola senza che i vicini mi sentano. Grazie alle pareti e alle vetrate isolanti Saint-Gobain. Così il rumore perde e il comfort stravince! Grazie alle soluzioni per l'isolamento acustico, da sempre comfort è Saint-Gobain. La Zanzara. Io l'ho scaricata da Adri Matteo Renzi, cioè l'ho guardata, no? Già il fatto che sia azzurra è voler copiare il Partito della Libertà. E allora cosa ho fatto? L'ho scaricata, senti come l'ho scaricata. L'editoriale di Mauro da Mantova, Parenzo. L'editoriale sì, di Mauro sì. da Mantova. Io di editoriale conosco quelli di Calabresi, di Ezio Mauro. Conosco quelli del nostro direttore chi? Del Sole. Ah, sì. Questo io conosco. Non conosco editoriali del signor Mauro da Mantova. Non li conosco. Allora, eravamo sempre con Giuseppe da Chieti, eh? Vai, Giuseppe, dimmi. Oh Cruciani, ma perché non hai trasmesso il lunedì dell'Angelo? Guarda siccome sei un ascoltatore della Zanzara, lo sappiamo, ti segnalo che noi non trasmettiamo il lunedì da circa 6-7 anni. No, dire stupidaggine Cruciani, perché vabbè, Giuseppe, chi se ne frega, cazzi nostri. Per far capire alla gente che vuoi un aumento al 700, da 600 a 700. Sì, da 600 a 700, da 600 a 700. Tu nella testa ce l'hai questi soldi qua, da 600 a 700 euro c'hai in testa, da 600 a 700 euro, con tutto rispetto. Caro Giuseppe, cosa vuoi? Stasera stai tutto nervoso, che cazzo del sono nervoso per niente. Al posto di una canna ne sei fatto due prima di iniziare. No, non me le faccio le canne io, non me le faccio. Non le faccio. Vabbè, non hai niente da dire, come al solito. Simone della provincia di Ancona, ciao Simone. Ciao. Dimmi Simone, ciao, dimmi. Sì, ciao Parenzo. Dimmi. Io volevo soltanto dire a Parenzo che forse questa saccenza, questa spocchiosità che ha verso le persone comuni, no, comuni. Sì, no, ma dipende come comune, non c'entra niente, non è nessuna. Consideri l'elettorato che non vota a sinistra un elettorato di serie B. No, ha detto un'altra cosa che è sbagliata. Ha detto l'80% degli elettori di Di Maio sono come lui, cioè sbagliano in congiuntivo. Cazzata. Sì, si riconoscono in lui, cazzata, certamente. Si riconoscono in lui anche, non c'è problema. Cazzata. Ma non è un crimine non conoscere il congiuntivo, È una cazzata, dai, David, è una cazzata. Non c'è problema. Sto soltanto dicendo però. Ma che naturalmente. Tra parentesi, non sono un cinque. Ma non c'è alcun disprezzo, disprezzo. Sono un partito che a te non sta molto simpatico. Io perché io voto a destra, voto Alleanza Nazionale. Ma va bene, io non ho simpatia, antipatia per niente. Non c'è più Alleanza Nazionale, non esiste più. C'è Fratelli d'Italia oggi. Ecco, appunto, benissimo. Detto anche da Parenzo, soprannominato da Parenzo Manganello d'Italia. Ah, dottore, non li colda. Olega Nord, a seconda di come mi trovo. Vabbè, sì, due partiti moderati. Va bene, benissimo. Volevo soltanto dire che quando tu dici che chi diciamo non ha non ha studiato alla normale di Pisa, o chi non, vabbè, non allora può parlare con te. Oh, mamma mia! Non penso che sia giusto che tu dica che chi non ha il tuo stesso livello di cultura non può intervenire in una trasmissione, o non può dire come la pensa, o non può votare come pensa, come vuole, insomma, ecco. Vabbè, Simone, ciao. Luigi da Cosenza, vai. Luigi. Bene, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Campioni dell'ipocrisia, siete due ipocriti, siete sì. fate schifo. È arrivato Luigi, dai. Dove eri domenica scorsa? Ma che cazzo c'entra? Noi lavoriamo da lunedì al venerdì. Ancora prima dove eri? Ma noi lavoriamo da lunedì. Sicuramente a lavorare. Cosa c'entra? Cosa perché c'entra? Tu sei uno di quelli dell'elite, tu la domenica ti fai. Ma che c'entra l'elite? Cretino, imbecille, che c'entrano l'elite? Ma se la trasmissione è da lunedì al venerdì, cretino, imbecille, cosa certo. faccio? A parte che io lavoro comunque. Ma che ne sai che non lavoro io? Che ne sai che non lavoro? Ma figurati che cosa fai tu la domenica che ti fai. È arrivato lui, Luigi, è arrivato che sa quello che faccio io la domenica. Rispondi, spesso lavoro, chiaro? Spesso lavoro. Sì, spesso lavoro, certo. Certo, perché tu che. Cosa vuol dire? Che lavorare i centri commerciali, i negozietti devono chiudere perché vi fanno schifo i negozietti. No, a me non mi fa schifo nulla. Le catene. Io non devo difendere niente, io non devo difendere nulla. Ho detto semplicemente che essere contro il sabato e la domenica lavorativi è ridicolo. È ridicolo. È una follia totale, chiaro? Ma tu che ne sai che vita fanno quelli che lavorano. Ma guarda che lavorano. Guarda che io conosco. Lavorano, ma cosa dici? Io conosco decine e decine di persone che ad esempio lavorano nei supermarket o in alcune fabbriche, alcuni amici che lavorano in fabbrica, che mi dicono magari, purtroppo ci hanno tolto i turni della domenica, ma magari si potesse lavorare di domenica. Io ne conosco. Ma tu che fai poi, Luigi? Che fai poi tu? Io lavoro nei centri commerciali e sai qual è la cosa più brutta? Cioè, quando c'è il tuo giorno libero e chiami qualcuno per un cazzo di aperitivo, non ti risponde nessuno perché sono tutti che devono lavorare. No, ma che fa Luigi? Io non capisco Luigi che cosa fa. Spiegami, di lavoro che fai? Ho nei centri commerciali e mi pento di questo. Che fai? Lavori nei centri commerciali? Sì. E che poi allora devi ringraziare qualcuno che ti dà il lavoro, che c'è qualcuno che ha aperto il sabato e la domenica e prima non c'era lavoro da questo punto di vista. Dovresti ringraziare. Che vuol dire sei obbligato a tenere aperto? Che vuol dire? Io firmo un contratto commerciale che devo garantire l'apertura il sabato e la domenica, se no col cazzo. Ma che ti puntano la pistola in bocca? Ti no, puntano la pistola chiudere, in bocca? Mi bastano due sabati che chiudo e mi tolgono fuori la licenza. I miei dipendenti vorrei mandarli a casa il sabato e la domenica. Amico mio, vuoi pagare? Vuoi lavorare? Ma lavori così. Cambia lavoro, fai l'impiegato alle poste. Impiegati al comune. Impiegati non so dove. Cerca il posto fisso allora. Ma che c'entra le multinazionali? Ma invece di appoggiare le iniziative per i negozietti. Ma che c'entra le multinazionali? Ma che con le catene piuttosto che francesi e loro sì che c'hanno i centri commerciali, la gente. Ma tu dove lavori? Nei centri commerciali lavori tu? Vorrei lavorare il sabato e domenica e non posso perché ormai ma io non ho capito dove lavori tu. Lavoro nei centri commerciali. Ma dove? Che fai esattamente? Esponiti, dimmi, dici cosa fai. Farmacia dentro un centro commerciale. Ho delle parafarmacie nei centri commerciali. E protesti perché lavori? Cioè sei l'unico caso al mondo di quello che protesta perché lavora. Sì, incredibile. Bravo. Protesti perché lavori. Ma guarda, quando c'è la protesta va sempre bene. Fatelo dire da uno che adora le proteste e odia lavorare, ad esempio. Le proteste sono una cosa meravigliosa perché certamente vitalizio, politica, senatore, parlamentare, occupatore di facoltà universitarie. Fammi capire, un signore che protesta è il sale della democrazia, meraviglioso. Ma questo è un cretino, perché questo lavora e protesta. Vedo il disagio dei miei dipendenti che non vorrebbero venire dalla domenica perché magari vorrebbero farsi una passeggiata al parco. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Esiste il diritto della passeggiata al parco, ha perfettamente ragione il compagno. Si può passeggiare al parco anche il lunedì, il martedì, il mercoledì, ma cosa c'entra? Ma che cazzo c'è a lunedì e il martedì? Ci sono solo gli spacciatori al parco. A Cosenza ci sono gli spacciatori, ai parchi di Cosenza ci sono gli spacciatori. Anzi. Sono a Parco Seppione gli spacciatori. No, questo è Parco Seppione sicuramente. Ma dai, su Luigi, ciao. Allora, caro Davide, la settimana scorsa abbiamo parlato di questo caso incredibile che vorrei fare mio, di questa prostituta. Vorrei assisterla legalmente, ha già un avvocato. Adesso sto cercando, faccio un po' capanna, non so perché. Faccio un po', vorrei assisterla legalmente, questa prostituta di Rimini, sì, bulgara da quello che sembra, che ha pagato, dovrebbe pagare 10.000 euro perché è multata da queste folle legge, da questo provvedimento del sindaco di Rimini, contro la prostituzione per strada. 10.000 euro di multa. Lena Bulgara, chiamiamola. Pronto? Lena, ciao, Giuseppe Cruciani, Radio 24. Ah, sì. Senti, ma è vero che non vuoi pagare questa multa da 10.000 euro? Che devo pagare io? No, ti hanno fatto una multa, no? Sì. Quanto, 10.000? Sì, 10.000. Non hai nessuna intenzione di pagare? No. No, ma è ingiusto. Non ho fatto niente, perché lo devo pagare? No, che hai fatto appunto? Perché ti hanno fatto la multa? Perché? Perché mi hai preso con un persona che sto parlando, niente più. Non me l'hai preso che mi sto trovando la gente là. Anche c'è telecamere, non ho fatto niente. Lei lo stesso me l'hai fatto la multa apposta. Dunque, precisiamo, non stavi trombando con nessuno, giusto? No. No. Ma di solito però lo fai pure nelle stradine, no? Sì. In questo caso niente, dove ti hanno preso? Dove ti hanno sorpreso col cliente? A Rimini. Sì, lo so, ma dove esattamente? Vicino a Italia Miniature. Vicino a Italia Miniature. Un distributore. Okay. Ma non c'erano bambini, famiglie, eccetera? Che ora era? Nessuno. Alle una. A luna di notte? Di notte, sì. Mamma mia, ma perché hanno fatto questa cosa proprio contro di te, proprio lì per quale non motivo? Non lo so. Non lo so, non vi posso dire. Ma tu che sei, bulgara? Sono bulgara, sì. Tutto a posto, permesso di soggiorno, tutto? Sì. Ma io voglio capire una cosa. Ma lei vorrebbe fare un altro lavoro, però, immagino, signora, vero? Ah, sì, sì. Certo. Quello è il mio problema, che devo cercare un altro lavoro. Ma vuoi fare un altro lavoro o ti piace fare la prostituta? Mi piace stare prostituta. Ah, come ti piace? Sì, ma cosa mi piace. Ti piace? Non hai un magnaccio? Che è successo? Mi piace fare prostituta, dice. Mi piace fare prostituta. T'ha sputtanato subito, Davide. Ah, lei non vorrebbe fare la prostituta. No, mi piace fare prostituta. Adesso la linea è caduta, vediamo. La pensa così. Mi piace fare prostituta. Mi sa che c'era un cliente che arrivava. Va bene, Giancarlo da Roma, vai. Sì, ciao. Dimmi. Allora, ho chiamato. Io ho sentito la radio fino a poco fa, adesso non so come si è svolta la faccenda, però poi. Quale faccenda? Qui non c'è nessuna faccenda. No, praticamente alle tue buone parole riguardo il fatto del sabato e la domenica, che per te non conta, non fa differenza lavorare sabato, domenica. Secondo me non ci dovrebbe essere nessuna differenza, cioè in una situazione così, come dire, anche difficile, eccetera, non ci dovrebbe essere nessuna differenza, ma adesso non la voglio fare seria la questione. No, però a questo punto, allora, invece di per migliorare sempre, per migliorare il paese, allora, eccetera. E allora prova a lavorare allo stesso modo per il sabato e la domenica, dai un buon esempio e vedrai che... Ma io non lavoro mai, zanzara, e comunque non dipende da me. La zanzara sicuramente il sabato ma non la dipende da me, non, cioè... Non smetterebbe. Sono forse sicure. Non hai capito, Giancarlo, a parte che noi non lavoriamo il sabato e la domenica, ma no, se, anche io decidessi, se anche io decidessi, ma non lavoriamo perché i programmi radiofonici vanno in onda dal lunedì al venerdì. Chiaro? Io tante volte ho lavorato la domenica, allora, alla 7 per tanti anni. Esatto, se io lavorassi... Voi confermate che voi prendete la stessa paga il sabato e la domenica? No, Parenzo sì, perché le libero io non sono dipendente, quindi prendo prende gli stessi soldi. Io per esempio il 25 aprile vengono pagato di più, ma di se più. Qualcuno il decide doppio, lui viene pagato assolutamente il doppio per quella giornata. E quindi è se giusto, io difendo il tuo diritto ad essere pagato il doppio. Io non voglio quel diritto, giorno. Io non lo voglio quel diritto. Sbagli. Ma sbaglierò, ma è così. Se io decido, perché anche i nostri tecnici quel giorno vengono pagati il doppio, giustamente. Ma cosa vuol dire? È importante. Io la penso come Parenzo. E tu la pensi come Parenzo? Io fosse per me non farei mai una battaglia. Sì, ma non è un diritto. Che cazzo c'entra questo? Non è un diritto. Ma come non è un diritto? Ragazzi, per me, lavorare se uno lavora, soprattutto perché c'è gente che non viene pagato di più. La gente non viene pagata. Allora quello è lo sbaglio. Dobbiamo così. Nel Bengodi siamo pagati tutti di più. Nel paese del Bengodi siamo pagati tutti di più. Ma non dite cazzate. Ma vogliamo fare in modo che questo paese non sia più Bengodi? Ho capito. Ma vogliamo dire. Non deve migliorare un po' l'Italia, no? Vabbè, Giancarlo. Se continuiamo con questo, ciao. Allora Andrea da Roma, vai Andrea, vai. Giuseppe, questa sera mi sa che ti sei messo tutti contro, eh. No, può darsi, ma il centro commerciale hai toppato proprio alla grande. Ma che vuol dire? Perché... io non sono né a favore né contro, io sono a favore delle cose che funzionano. Se quelli aprono sette giorni su sette, uno può andare a comprarsi una camicia anche la domenica, ma va bene, va benissimo così. E poi non è che ci sono solo i grandi centri commerciali, sono un sacco di catene che sono aperte sette giorni su sette, la gente lavora. Ma che cazzo volete, un paese dove non si lavora il sabato e la domenica, allora, come Di Maio, che... lavorare meno, lavorare tutti, ma siete impazziti, siete. Allora, hai fatto un autogol clamoroso un minuto fa quando hai detto che i programmi radiofonici ci sono dal lunedì ma non è vero, questi programmi qua. Noi ma io me lo sentirei volentieri il sabato della domenica, ma amico mio, ma a me, se mi danno problema, ma ho capito, ma uno non può lavorare 7 su 7 va al manicomio in cui facendo una trasmissione del genere, dai, su, non dite minchiate, ma dai. No, ma come fai a dire questo voi giornalisti? Vabbè, allora avete ragione voi, dai. Allora, voi giornalisti vi prendete delle vacanze assurde, ma non lo so, ma stai generalizzando. Ballarò, ad esempio, finisce a giugno e riprende a settembre. I programmi Rai in estate non si stanno più e ti fanno rivedere 18.000 volte. Amico mio, ma quelli sono cazzi di chi firma i contratti alla Rai. Non mi interessa a me questa roba qua. Ti sto dicendo semplicemente che fare una battaglia come fa Di Maio, riportiamo tutto a quello che è successo. Per il fatto che dice che le famiglie vanno in rovina o comunque entrano in difficoltà. Ma che vero cosa? Ma che mondo volete? Ma che mondo immaginate? Dove si lavora meno, si lavora tutti? Ma che siete matti, allora, siete? Ma è un mondo. No, ma chi ha detto lavorare meno? Infatti, ma così dico genericamente quello che dice Di Masi, no? Davide, cioè, anche il fatto di lavorare meno e lavorare tutti, anche qui toppate, perché è una semplice operazione aritmetica. Se tutti lavorano meno, è una puttanata. È una puttanata. Anche in Francia è fallita questa cosa, clamorosamente. Ma non si tratta di abbassarlo a 18. Vabbè, ragazzi, ore. Vi saluto. Vai, ciao. Andrea, non è vero, non è così. Ciao. Come ciao. Non è vero? Non è vero. Ciao. È verissimo. Io comunque continuo a ritenere una roba un po' razzista quella di Pirozzi, il sindaco di Amatrice, che vuole vietare i selfie davanti alle macerie. La trovo una cosa di un razzismo nei confronti di chi va a visitare Amatrice che è insopportabile. Chiamiamolo. C'è? Vabbè, aspettiamo un attimo, dai, aspettiamo. Daniele da Foggia, vai, aspetta che lo mettiamo in diretta. Daniele da Foggia. Non c'è, l'avete messo? Marco dalla provincia di Torino. Marco. Sì, pronto, buonasera. Sentite, io volevo ritornare sulla questione della grande distribuzione, delle aperture seriali. Sì, dimmi. Io ho avuto un'esperienza di 8 anni in grande distribuzione e purtroppo mia moglie faceva un altro lavoro. Okay, vi siete separati? No, ho dovuto cambiare lavoro. Per fortuna sono riuscito. E allora? E allora? Che la questione della disgregazione delle famiglie la disgregazione è vera, delle famiglie per, quello, per i centri commerciali, amico mio, non la posso sentire questa cosa, è una puttanata. Ma è io una... ti parlo anche di altre mie conoscenze, altri miei amici che hanno comunque tuttora problemi per questo fatto. Ma hanno problemi perché si stufano della moglie e viceversa, lavorare la domenica tiene più unita la coppia. Perché si vedono di meno. Esatto, bravo. Questo è il mio giubilo. Chi non vuole stare insieme. Ma no, ma ci sono altri momenti della giornata. Ma se uno deve lavorare, ma perché io conosco un sacco di lavoratori sempre a casa. Si romperebbe il cazzo con i bambini, con la moglie, eccetera. Scappa, a un certo punto scappa e viene a fare la zanzara o fa altre cose. Scappa a gambe levate. Facendo, capite, esultando. Uno fa così esultando. Sì, certo. Ah, tu dici la Tognazzi proprio. Quando Tognazzi, i amici miei, dice: ma dove vai, Lello? No, poi se posso aggiungere una cosa. Sì, aggiunga. Tu ti sei lasciato con tua moglie? No. E allora che cazzo dici? Ho cambiato lavoro, Tutti cambiano lavoro, sai quanti ne ho cambiati io? Ciao, tutti Marco, lo cambiano. Ciao. Ma vaffanculo. Ma che mai fanculo? Abbiamo con noi Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice. Ciao Sergio. Buonasera. Ciao Sergio. Allora, sindaco, non capisco perché vuoi discriminare tra i tuoi turisti. Cioè la gente viene ad Amatrice ed è già un successo il fatto che venga ad Amatrice. Ma esistono i turisti esibizionisti, esistono i turisti meno esibizionisti. Qual è il problema? Non capisco, è solo una questione estetica? No, ci sono macerie e macerie e queste sono quelle umane. E consentimi, che sono le macerie umane dove ci sono le vite dei miei concittadini, sì, un pochettino quote, no? Sì, bravo, no, ho capito, bravo. Però è sempre un bene che arrivino. Poi come si fa a discriminare tra quelli che fanno il selfie, quelli che fanno una foto e quelli che vengono semplicemente per vedere? Cioè è complicato pure, cioè tu dici che li affronti... Il discrimine non è chiaro che non è che posso fare la guardia, no? Appunto, che sei il potestà. Però io ti dico, noi abbiamo avuto un grande turismo che è quello della solidarietà. Sì. Ieri era un giorno di festa, Il sindaco lavorava anche i giorni di festa, andavo a controllare le aree dove si stanno, diciamo, urbanizzando per far sì che ci vadano le case, e qualche imbecille stava lì. Io, insomma, io ho detto, guarda, non è il caso, sono diventati rossi, hanno chiesto chi ero. Ma come li, come li consideri quelli che si fanno i selfie tra le macerie? Ma non vivono la realtà. Non sciacalli, diciamola tutta. Ma no, dai, ma dei ragazzi che... Sciacalli, tour dell'orrore. Che non sanno quello che c'è. Ma tu andresti mai a Cogne a fotografarti davanti alla villetta dell'orrore della signora Franzoni? Io no, però... E qualcuno l'ha fatto ed è un criminale, capito? Quindi, un criminale. Certo, ha ragione il sindaco. Non si può andare lì a farsi la foto sulle macerie dove ci sono suoi concittadini che hanno perso la vita in quel terremoto devastante. Ma io non sto dicendo che fanno bene, però è difficile. Gente vergognosa, sì, ha ragione il sindaco. Ma ho capito, ma come fai a cacciarli poi, sindaco, scusa? Con bastone hai detto foglio che di via, foglio di via. No, ma sai, guarda, adesso ti racconto una storia che è molto interessante per voi. Cioè? Allora, uno stregone del Burkina Faso l'abbia mandato un bastone che noi lo chiamiamo il tortore. Sì, il famoso tortore, sì, delle tortorate. Il tortore serve per scacciare gli spiriti maligni. Per cui quando qualcuno di queste persone tornerà, io mi auguro di no, no? Io lo accarezzerò con questo tortore per fargli uscire lo spirito maligno. Che nel caso continua... un leggero sfregamento sulla testa può risvegliare. Vabbè, gli dai una tortorata, dai, su. Cioè, piano piano, altrimenti vado in galera, bravo. No? Però quello serve per allontanare gli spiriti maligni. Però io ti dico una cosa, va bene, d'accordo, tu ti stanno sulle palle quelli che vengono a farsi solo le foto, perché... Lo posso dire, no, non è un problema. No, ma ti stanno sui coglioni, quelli là che vengono lì a farsi la foto sulle macerie dove è morta la gente, a te ti stanno sui coglioni, li consideri dei cretini, o no? Sì. Io ieri ho ricordato che dietro queste macerie ci sono le macerie umane. Vabbè, se uno lo sa, ne prende atto, poi lo sai che c'è, ognuno risponde alla propria coscienza, al proprio modo di essere. Non è che posso mettere il metal detector perché chi fanno che queste cose hanno qualche lodellina fuori posto, per cui potrebbe, no? Poi non è detto che quelli che si... D'accordo, però Sergio, non è detto che quelli che si fanno il selfie siano indifferenti ai morti. Ma che c'è? Cioè, ma non è detto che abbiano meno... È un orrore. Ma glielo ricordo. Bravo. Io metterei una tassa, sindaco, guarda. Se tu vedi, sì, quando tu vedi uno di questi turisti che si fa una foto con dietro le macerie, scusi, come si chiama? Nome, cognome, carta d'identità, sì, tassa. Ma ci manca solo la tassa a chi fa le foto. Tassa a chi fa le foto sugli errori. Il sindaco li caccia, no, questo mi sembra giusto. Ma come li caccia? Hanno fatto pippa, hanno chiesto scusa. D'accordo, hanno fatto pippa, d'accordo, ma che soddisfazione è hanno fatto pippa? Cioè, nel senso che dovresti metterti là ogni volta. Ma non mi ci metto, ma io te lo ricordo. Poi dopo ti ripeto, ognuno fa quel che vuole. Cioè, venite da Matrice, ma non fate i selfie, lo confermi. Venite da Matrice, ma non fate i selfie dalla Matrice. Ma venite nelle montagne che sono straordinarie. Sì, ma chiunque ha diritto a fare, io invece dico, chiunque ha diritto a farsi un selfie sulle rovine di Amatrice. Come da per... del sindaco, no. Però secondo me invece, al contrario, resteranno un sacco di ricordi di Amatrice con la gente che si fa i selfie, straordinario, con le macerie. Pura. Ma no, andate anche a Cogni allora. Andate a Erba. Andate a fare infatti fa schifo. Mi stupisco di Sergio, ma siete veramente delle persone che vogliono reprimere la libertà delle persone anche di fare delle cose. Siamo beceri, guarda, siamo due beceri. Due beceri, non e mi pare siamo che... contro la libertà dei selfie. Certo, contro la libertà dei selfie, perché a voi i selfie quando tu vedi un anche a me mi fanno schifo i selfie. Oh, anche a me mi fanno schifo. Infatti siamo insieme, no? Noi siamo in due contro uno, per cui è minoranza, la maggioranza comanda, abbasso i selfie sulle macerie. Hai perso 2-1 a casa. Vabbè. Partita. Ciao, Sergio. Arbitrofischia. Ciao. Un abbraccio. Ciao, caro. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. La zanzara. Australia, Brisbane, Sydney, 13 ore di macchina. 8 episodi della zanzara, non ce la faccio più, andate a fare in culo, bastardi. Luciani, io sono un tecnico di cardiologia, lavoro in ospedale tutto il giorno, arrivo a casa e di notte io mi ascolto i podcast della zanzara che mi fanno andare avanti tutti i giorni a lavorare. Però arrivo al sabato e ho già ascoltato tutti i podcast della settimana. Dove cazzo sei al sabato? Cosa cazzo fai? Io voglio la zanzara anche al sabato! Allora, un pazzo scatenato mi sta mandando 140, ti giuro, 140 messaggi. Calmati, amico mio, lo so che c'hai lì la mano sui tasti che brucia. Mia moglie, madre di due figlie piccole, mi ha mandato lo stesso messaggio 50 volte. Mia moglie, madre di due figlie piccole, è costretta a lavorare in un centro commerciale sabato e domenica e non possiamo stare tutti insieme nessun giorno alla settimana. Vabbè, questo per dare spazio al becero consumismo. Vergogna, vergogna, vergogna. No, amico mio, non c'entro cazzo il consumismo. Per dare spazio al fatto che lavori. Cioè, poi il fatto che non potete stare insieme. Meglio, molto meglio. Così vi vedete poco, il vostro matrimonio può durare. Il vostro matrimonio può durare, amico mio. Invece quello scrive vergogna, vergogna, vergogna per dare spazio al becero. Ma ti dirò di più, è strano che siano pochissimi i supermercati, ad esempio, che sono aperti 24 ore su 24. Tenere aperto un supermercato 24 ore su 24 è una norma di civiltà, perché la gente lavora. Chi è che può andare a fare la spesa la mattina? Il disoccupato. Oppure la filippina. Dottore manda sempre la mattina a fare le spese. Infatti, lei la filippina va a fare la spesa la mattina. Ma la gente normale che lavora, quando va a fare la spesa? Il venerdì, il sabato, la domenica? Oppure la sera, dopo l'orario di lavoro? Allora, ti leggo. Quindi i supermercati vanno tutti aperti 24 ore su 24. Sì. Sono pochissimi quelli. Fare una grande battaglia di civiltà su questo. Facciamola. Allora, ti leggo una pagina presa dal libro di un grande scrittore. Dove facciamo un grande poi saluto anche Gianni Boncompagni. No. Però questo facciamo. Sì, dopo, vabbè, ma non c'è bisogno. Lo salutano in tanti, perché dobbiamo aggiungere banalità? Banalità. Ci sono degli aneddoti straordinari che si potrebbero raccontare sul grande Gianni. Ma perché aggiungere banalità? Se uno ha qualcosa da dire, bene. Non lo vorrebbe, infatti. No, esatto, infatti, non gliene fregherebbe un cazzo. Non gliene fregherebbe un cazzo. Però soltanto questo è divertente. Quando lui con Renzo Arbore andava a fare le supercazzole nei negozi dei preti, cioè si vestiva da prete con Renzo Arbore, andava nei negozi di sacri vicino al Vaticano e diceva al commesso: scusi, mi può dare per cortesia un crocifisso che sorride? Un Gesù che sorride? Quello tirava fuori tutti i crocifissi e Boncompagni indignato diceva: ma questi qua non sorridono, non me ne vado, è uno scandalo, io voglio uno che ride. Ecco, questo è un ricordo. Stupendo, stupendo. Sei Asmodeo, Signor Asmodeo, signor Asmodeo. Sta per andare attraverso l'acqua, ho sputato tutto. Con Asmodeo. Ecco, senti, tutto in diretta, eh. Senti il malato. Aspetta. Una roba incredibile, vai. Allora, ti leggo la pagina di un grande scrittore. Comunque, non me l'aspettavo, mi è stato segnalato in questo weekend cortinese, questo weekend di grande cultura cortinese. Senti, mi è stato segnalato questa pagina di un grande scrittore. Mi dicono che anche lo chef di Tivoli è un grande ascoltatore. Grandissimo, della zanzara, grandissimo. Mi dicono, ristorante mi dicono. Carissimo. Sì, carissimo. Hai pagato almeno? Zero. Aspetta. Nulla. Comunque, al mondo ci sono poche cose così misteriose e intriganti per gli uomini come l'orgasmo femminile. Immagino che per le donne si possa dire altrettanto dell'orgasmo maschile, ma lo immagino un po' per spirito di simmetria e quasi di parità, perché nonostante tutto la faccenda è più semplice, più meccanica, benché diventi più sottile se la si separa dall'eiaculazione. Quando parlo di schizzi non intendo le secrezioni vaginali che tutti conosciamo, ma un getto potente, copioso, che a un tratto vi riempie la bocca, perché per quanto ne so si verifica soltanto in caso di orgasmo clitorideo ottenuto mediante stimolazione orale. Questo non è vero in realtà. La prima volta che mi è successa avrò avuto 20 anni e non ho capito bene cosa stava accadendo. A dir la verità ho creduto che la mia compagna stesse pisciando. Per quanto fossimo già piuttosto intimi, ho pensato che pisciare nella bocca del proprio uomo così, senza avvertire, fosse comunque un po' maleducato. Dottore? Sul lenzuolo era rimasta una grande chiazza, il sapore era acido, l'odore pungente, ma non era urina. Allora cos'era? E così via. Ragazzi, sono pagine straordinarie. Dottore, è andato a Semolis. Sì, sarà andato a Semolis. Dottore, partito, andato a Semolis a bere le champagne, dottore. Ma se ti dico, non ti parla, perché lì è dottore di pipì nel letto, non parla, dottore, è andato via. Guarda che sono pagine di un grande scrittore, uno scrittore considerato uno dei, come dire, dei più importanti scrittori contemporanei. Amico mio, non è che un grande scrittore può essere un grande scrittore così a intermittenza, lo è anche per queste cose. Nei libri, bisogna nei sottolineare, libri. Caro Parenzo, sì. Che dopo questo articolo, perché era un articolo, fu, diciamo, come dire, la collaborazione con questa rivista fu interrotta. Ma chi è sto scrittore? Scusa l'ignoranza. No, ma oggi non te lo dico, te lo vai a scoprire da solo. Ma perché? Con questo incipit, anzi con quest'altro passaggio. Ma è passaggio. Vivente ancora? No, ma come? Viventi? No, vivente, di più. Ma che Bagatta? No, ma che Bagatta, che non cazzo c'entra? Ma uno dei più grandi scrittori contemporanei, che cazzo c'entra Bagatta? Ah, contemporaneo vivente. Ma poi Bagatta è come te, non ama parlare di queste cose. Dottore Bagatta, bravo, Semolitz, con fidanzata molto giovane. Ma che c'entra questa? E ricordale sempre, la fidanzata molto giovane, dottore Bagatta. In seguito è accaduto di nuovo, non tutte le volte che la leccavo, ma spesso. Mamma mia, dottore, non ne può più, dottore! Ma spesso in concomitanza con gli orgasmi più violenti. Per questo consideravo quelle inondazioni un segno di massima soddisfazione e mi davo da fare per provocarle. Ma che dite? Ragazzi, è uno dei più grandi scrittori contemporanei. Sì, siamo d'accordo. Che ha raccontato nei dettagli il valore inestimabile, il valore quasi divino. Che direi nettare, no, non c'entra niente. Dello squirting, chiaro? Walter chiaro? City. Chiaro? Ma non c'entra niente, no, non lo sai, lo so io, non lo sai tu per una volta, lo so io, non lo sai tu. Ma lo conosco io. Ma certo che lo conosci, assolutamente. Ma contemporaneo, vivente, italiano. Ti posso dire che non è italiano. Ma è un grandissimo scrittore, Cos'è lo squirt? Ecco l'altra lì, quella cosiddetta prostituta. Guarda. Vabbè ragazzi, dai, Giuseppe da Bologna, vai. Vai Giuseppe, dimmi. Niente, volevo dire... Sai cos'è lo squirting? Sai cos'è lo squirting? Stare tranquillo. Se uno fa la foto, sì. Se niente, fa la foto, se la ride, sì. Sghignazza, allora ha ragione. Ma ha ragione, non è che c'è la polizia per punire chi sghignazza davanti alle macerie, dai, su. Ma se uno fa la foto, va a casa e racconta, dice guarda cos'è successo, guarda, mi sono fatto la foto, è incredibile, cioè racconta i cazzi suoi e magari anche in maniera buona, cioè non, certo, non c'è certo, questa cosa sì, che lui vede, sì, che uno si fa il selfie, perché cosa? Ma sì, ma non è lui dà male. Un giudizio, Pirozzi, l'avete sentito prima, qui ai nostri microfoni. Ma hai ragione, ragazzi, questa è una cosa seria. Ma cioè, non è una cosa seria, è una puttanata. Ti dà l'idea di come una parte di paese, di come ma sia cosa? Una parte di paese. Ma cosa c'entra? Se uno va lì, fa del turismo, si chiama turismo, Parenzo intanto e non Parenzio, Parenzo. Parenzo, l'aiuto. Parenzo, cioè, vabbè, saranno cazzi suoi. Ti può chiamare come vuole? No, mi sono sbagliato. Scusa, ecco, Parenzo. Allora, okay. Caro allora, signore, il turismo macabro, il turismo del terrore, no, anche se lo fosse, allora il turismo anche se della fosse, morbosità, allora, la gente non va ad Auschwitz, certo, allora ci sono che le fanno i selfie ridendo ad Auschwitz, certo vengono foto. Sanzionati perché non è no, un posto. Non puoi fare le foto dentro, credo, non lo so se puoi. Non lo so se lo puoi farle, non lo puoi fare. No, ma non è che ti fai il selfie dice davanti ad Auschwitz. Ma che c'entra il selfie col pollice verso? Allarga le meningi, Parenzo. Ecco, lei stringa le chiappe, che dicendo, è la stessa cosa nel suo caso. Stavo invece. Dicendo. Faccia da culo, ti ha detto Giuseppe. No, ho detto stringa ma non me ne frega le chiappe. Niente, tanto, senti, il vaffanculo, anche se mi dà del deficiente. No, faccia da culo. Io non mi offendo perché? Beh, perché so di non essere deficiente, capito? Vabbè, allora. Allora, volevo dire, quando uno torna a casa, magari che ne sa lui? Chiama i figli e dice guardate ragazzi, mamma questo mia. È il terremoto, mi sono fatto la foto, ma che vuol dire? Ma non è un souvenir, cos'è il terremoto, ma non è una cartolina, ma non è una cartolina, ma ti, non ti è spedisco una foto dal terremoto. Adesso il telefono salame. I miei ragazzi lo interpretano come un fatto di vita. Cioè io mi sono messo a capire che quando uno va al telefono si fa le foto, è così. Ha ragione lui. Non c'è niente di ha male. Ragione lui. Ed è ridicolo che quello, per esempio, io ho non letto... ho mai fatto un selfie, premetto. Ma però nemmeno io ne faccio pochissimi, ogni tanto li faccio, quelli che me lo chiedono lo faccio. Poi. Ma certo, bisogna lasciare liberi i turisti che vanno da Amatrice di farsi tutti i selfie che vogliono, anche di fronte alle macerie, anche di fronte alle macerie. Ma allora creiamo, creiamo un turismo dell'orrore, proprio creiamolo, creiamo dei viaggi, creiamo dei viaggi a cogne, a erba. Ma già ci sono, non li puoi fermare tu certamente, con il proibizionismo. Basterebbe mettere delle multe, piccole multe, piccole multe. Saluti e baci, paga la multa da Amatrice, taci, come si dice. Va bene, ciao Giuseppe. Elio Firenze, Elio Firenze, sentiamo, andiamo avanti, Elio Firenze, vai. Gente macabra proprio, macabra. Ciao Zanzaracce. Comunque al mondo ci sono poche cose così misteriose e intriganti per gli uomini come l'orgasmo femminile, capito? Hai capito, Parenzo? Quando dottore, parlo... dottore Semmolitz con dottore Bagatta, in moglie vita mia, giovane. In vita mia ho incontrato due donne che schizzavano nel momento dell'orgasmo. Quando parlo di schizzi non intendo le secrezioni vaginali che tutti conosciamo, ma un getto potente, copioso. Dottore chiede mandale pubblicità immediatamente, dottore. Ha parlato con Sole 24 Ore e chiede mandale continuamente pubblicità. Ma perché ti pubblicità? Fa schifo una cosa normale come questa? Non, non capisco. È che mi fa schifo, mi lo leggo, è letteratura. È il racconto di un grande scrittore, Elio da Firenze. Ma chi è questo? Dammi una mano. No, non... no, ormai te lo devi fare da chi solo, sennò te lo dico domani. No, okay. Elio da Firenze, tanto te lo diranno coi messaggi, dai, Elio da Firenze, vai. Ma non lo dire adesso, Elio da Firenze. No, no, non lo dirò, figurati. Elio. Ciao Zanzare. Vai. Ciao Elio. Senti, io telefonavo a proposito dei centri commerciali che aprono il fine settimana. Dimmi, dai. Allora, io sono un medico. Sì. E come puoi immaginare... Ragazzi, ma vi rendete conto del ridicolo... del ridicolo dibattito che ha innescato, sì, Di Maio, pazzesco, dai, cioè dopo 20 anni, una volta era la Chiesa in che America, combatteva queste cose, ti ricordi? Anni che ci fu una discussione in Italia, sì, quando per la prima volta aprirono i centri commerciali, certo, la domenica, i negozi, certo, la domenica, in cui i cattolici, la Chiesa era, adesso nemmeno la Chiesa non gliene frega più un cazzo. Di Maio peggio dei conservatori del Vaticano, peggio dei conservatori del Vaticano. Comunque pare che sia molto popolare questa cosa qui, quello che ha detto Di Maio. Dunque dal punto di vista elettorale magari c'ha ragione lui, protegge i lavoratori dalle multinazionali, tutte puttanate, però pare che funzioni. Elio, vai. Allora, secondo me Di Maio non capisce nulla. Allora, quanti medici ci sono in Italia? Non lo so, amico mio, però dimmi, che mi vuoi dire? Te lo dico io. Siamo 400.000 circa. Vabbè, allora? Di questi, 200.000 fanno i turni, sì, durante i festivi e le notti. Dunque? Dunque, dai. Le famiglie si possono sfasciare, come no? La mia si è sfasciata. Sì, ma mica per colpa dei turni. No, invece sì, mia moglie, che la quale faceva la ragioniera, ha trombato durante mentre facevi il turno, si faceva il chiappettello. Perché devi buttarla così? Perché devi metterla in questo modo? Mentre tu facevi il turno, per si faceva. È un dramma, perché devi metterla così? Amico mio, mentre tu facevi il turno da medico, lei se la spassava. Sai come il film, quello Fracchia la Belvomana, no? Che quello fa vedere la foto, questa la nota, No, quello era Amici miei, quando c'era il Pirozzi che Fracchia andava a prendere la Belvomana durante l'interrogatorio. Dai, Elio da Firenze, vai, dimmi. Senti, quello può anche essere successo, ma non ho telefonato per questo. E perché ti ha lasciato? Perché hai divorziato? No, lei mi ha lasciato perché voleva che io facessi gli stessi orari che faceva lei, dal lunedì al venerdì. Amico mio, ma questa è una cogliona allora. Scusami se te lo dico, ma la tua ex moglie è un imbecille. È un imbecille. Certo. Beh, amico mio, avete divorziato perché evidentemente tu ti scopavi un'altra. Oppure lei si scopava un altro. Tu ti scopavi un'altra, sicuro, sì o no? No, all'epoca no. All'epoca no, dopo sì, a chi la viene a raccontare? Dopo amico sì, ovvio, mi sa che sì. Ancora lì ballo... all'ospedale si accadono sempre certe porcherie, amico mio, in corsia, guarda, lascia stare. Quello è interessante, lo sai, le scopate dentro gli ospedali. Sì, apriamolo. Le scopate dentro gli ospedali sono una cosa molto interessante. Sì, certe porcherie avvengono. Tu ne sai qualcosa, vero Elio? Ne so tante. Beh, amico ma mio, certo, ne succedono di tutti i colori, anche sui lettini accanto ai malati. Beh, io ho saputo, sì. Ora non più, ora non più. Non più perché ci sono molte telecamere adesso, hanno paura dei telefonini, bravo, eccetera. Prima se ne è combinavano. Capito, adesso se la fanno sotto. Quelli che giustamente si vogliono divertire durante i turni. Prima era un onore da parte delle donne stare con i medici. Sì, anche i pazienti, dici? Sì, eh? O dei familiari, familiari, tipo il dottor Cersilli, l'hai visto, sì. I familiari dei pazienti dei medici scopano con i medici sui lettini o dentro i reparti di notte, stupendo. Succedono, ragazzi, succede di tutto. Ciao Elio, ciao. La mia specialità è lo squirting, amore. Beh, amica mia, Parenzo! Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Spruzzavi, cos'è lo squirt? Mi visita un dottore, mi disse, non è niente, è nettare d'amore. No, io faccio altre cose, io cago addosso ai clienti. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presento La Zanzara. Anni dopo che abbiamo fatto l'amore, il mio fidanzato è andato in bagno e ha iniziato a dire amico mio e faceva pipì nel lavandino. Beh, siamo al top, eh? Siamo al top. Cruciani, io ti amo! Ah, mister 140 kg, vai scopà e magna di pelo prosciutti, che cazzo. Allora ragazzi, molti mi stanno scrivendo chi è questo scrittore, chi è questo scrittore, non ve lo dirò, vi leggerò un altro passo, vi dico semplicemente che durante questo weekend molto culturale che ho fatto in quel di Cortina, proprio il signor Chiamulera, l'organizzatore di tutto... Sì, ottimo, Chiamulera, brava persona sto Chiamulera, mi ha invitato anche a me. Allora, mi ha suggerito questa cosa, siccome è un grande ascoltatore della Zanzara, mi ha detto, guarda, alto, basso, leggi questa roba qui, scritta da puntini puntini. Scritta da puntini puntini. È un grande scrittore, c'è un uomo di cultura anche molto raffinato, uno molto snob. No, lui, lo scrittore, no, certo. Il quale però si diverte a scrivere ogni tanto di sé, e soprattutto ha scritto questa cosa straordinaria sullo squirting. Beh, lo abbiamo letto, no? Mi pare. Ma ti posso leggere un altro passaggio? Dottore, posso leggere un altro passaggio? Dottore, comunicato che è uscito, notolna, dottore. Era come se perforassi una diga con la lingua. Mi faceva impazzire il momento in cui alla fine la diga cedeva. Ah, dottore, senti che bello. È uscito, è andato con Tlonchetti Plovela a mangiare le bolognese. Dottore, no. È uscito con Tlonchetti Plovela. No, ma senti la metafora. Dottore, non c'è, no metafora. Dottore, con Tlonchetti e Plovela. Le persone sono dottore, Tlonchetti e Plovela, andati a mangiare le bolognese e champagne. È capitato spesso nel corso della nostra relazione e penso che la mia ragazza, vedendo quanto mi piaceva il suo abbandono, abbia smesso di cercare di trattenersi. Ma non ne abbiamo mai parlato, eravamo giovani, forse nessuno dei due aveva il coraggio di ammettere la propria inesperienza. E così facevamo entrambi come se fosse normale. Non doveva esserlo poi tanto, oppure non sono stato fortunato, perché nei 25 anni successivi nessun'altra donna ha mai schizzato a quel modo nella mia bocca. Finché non ho conosciuto quella di cui sono adesso e spero per molto tempo innamorato. Anche lei era turbata quando l'è successo con me, ma forse è uno dei vantaggi dell'età, quello di parlarsi più facilmente, e lei mi ha raccontato tutta la storia dal suo punto di vista. La prima volta doveva avere l'età della mia compagna dell'epoca e non soltanto non ci aveva capito niente, ma si era terribilmente vergognata. Sapeva bene che non era urina, ma le somigliava, e l'idea di pisciare mentre godeva poteva mandare in paranoia anche una ragazza smaliziata, e lei smaliziata lo era. Le piaceva scopare, le piaceva il desiderio degli uomini e le loro mani e i loro cazzi e la loro lingua, eppure la loro lingua era sul suo clitoride, le metteva sempre un po' di paura. Era l'unica situazione in cui non riusciva ad abbandonarsi completamente, era ogni volta un po' riluttante e tendeva a controllarsi. Non le andava di lanciare di nuovo quegli schizzi, non le andava di vergognarsi né di non sapere. Beh, stavolta è stato meglio la mia recitazione, devo dire la verità. Bravo, veramente. Ma non l'avevo più, non l'avevo nemmeno letto, questo passaggio. Quante volte lo hai letto? No, è la prima volta. Bravo, bello. Quando mi ci metto è la prima volta. Non rileggiamolo, però. È con noi Antonio Razzi, reduce della Corea. Antonio Razzi, Razzi, Razzi, razzi, Antonio. I razzi, sono i razzi, buonasera, sono quelli. Giuseppe, buonasera. Ma non sapevo che era anche un poeta. Hai sentito, no, lui, hai però. Sentito che recitazione o no? Hai sentito che recitazione? Detto io, Capre. Bravo, complimenti. Dica almeno di un amico poeta. Amico mio, io posso fare di tutto. Io sono amico di quest'uomo, non mi sono mai preoccupato. Io devo dire, sono orgoglioso di essere amico, sì, del signor Razzi. Beh, vabbè, questo orgoglioso, certo, è una persona per bene, ma non sono, c'è dubbio. Tutti lo attaccano, lo massacrano. No, attaccano, capito? Sì, sarebbe, ma sì, vabbè, ma va benissimo. Che attaccano, che me ne frega. Si attaccano a Lucazzi, si attaccano a Bravo, bravo, l'hai detto tu, non ho detto no, io. Dillo anche tu però, è lo il pensi. Tipico personaggio che andrebbe benissimo in una trasmissione di Gianni Boncompagni, Razzi, ma insomma, ma Gianni Boncompagni che è morto, adorerebbe il signor Razzi. Ma sicuramente, sicuramente. Ha adorato, più volte l'ho sentito parlare. Grande professionista, grande, ma che professionista. Scherzi, soprattutto diceva che, cioè, aveva una cosa in testa, signor Boncompagni, cioè aveva capito che fanno più ascolto le persone normali, sì, piuttosto, sì, che i VIP, piuttosto che, no, piuttosto che le persone conosciute. Sfruttava... Anzi, lui adorava quando l'ospite all'ultimo saltava, sì, e a un certo punto Chiambretti gli disse: adesso cosa facciamo? Ma adesso intervisti una rana, e gli mise una rana in studio che parlava con la voce di Boncompagni. Vabbè, allora Antonio, io sono sicuro che tu non hai mai rischiato nemmeno un secondo in Corea, perché ma guarda, io ne ho sentito di tutti i colori, ma noi ci facevamo quattro risate, eravamo in sei. Sì, chi eravate tu? Il signor Bartolomeo Pepe, il famoso, sì, senatore, ma... Bartolomeo Pepe, poi l'ex sindaco di Francavilla, Nicolino, chi? Di Quinzio, sì, poi aspetta, statisti uno di qui di Roma, della Camera di Commercio, aspetta, un certo, sì, Nicola Colicchi, ma manco si ricorda il nome. E poi c'era Ialta, due... proprio il patto di Ialta, no? Dico proprio cervelli, due cervelli pazzeschi. Televisiva Nemo, ah, sì, di Nemo, sì, ah, di no, Nemo, no, ottimo, certo. Trocchia, no, Nello Trocchia è ottimo, Trocchia, vabbè, è ottimo. Allora io voglio capire Trocchia, una cosa, scusami, no, Trocchia, Trocchia, Antò, Trocchia, allora, Trocchia, ma se Trocchia, Trocchia, Trocchia, Trocchia, quello di Nemo, sì, Trocchia, no, sì, è un compagno, altro, Trocchia, sì. Comandante, io voglio Trocchia, capire, sì, una cosa, caro Antò, siamo a Ialta praticamente, no, ma lascia perdere le ironie, io voglio capire in Corea che atmosfera c'era, si sentiva questa pressione americana, si sentiva assolutamente, no, non c'era festa in tutti i lati, perché festeggiavano il grande leader, tutte le piazze erano imbandierate, feste, bello, di qua di là, sì, feste, bevevano, sì, mangiavano, facevano festa, c'era una lira che mangiavano, un'altra cosa, sì, quello che piace all'amico mio Giuseppe, però insomma, cioè? Tutte... scopavano, beh, magari, dico, no, ma sono, perché facevano anche quello per festeggiare il grande leader, cioè, ma voglio dire, ma com'era, mai una tensione, mai un momento di preoccupazione, niente, poi hanno detto di tutti loro, è stato come senatore Razzi, si è sequestrato, che lo fa ripartire, ma tu cazzo, mai sequestrato, mai sequestrato, ma per fortuna che ci stavano quelli, perché se lo dico io, sai, no, ma certo, potresti essere di parte, diciamo, beh, no? Allora c'erano questi che hanno visto come mi adorano, ma Pyongyang, che Pyongyang, scusa, Pyongyang è un posto, come dire, ordinato, come l'hai trovata dopo tutto questo tempo, pulito, ma ordinato? Guarda, io l'ho detto sempre che mi ricorda la mia Svizzera, sì, mi ricorda la mia Svizzera, sì, ma meglio, non per meglio addirittura, ma non per la questione politica, perché no, molte, no, volte vengono prende, ma come quella Svizzera, beh, è chiaro che la Svizzera c'è, diciamo, c'è democrazia, ci sono piene di banche, ma io dicevo sempre su quanto riguarda la pulizia, ma com'era l'ordine? Perfetto, no, non si vede un filo d'erba più alto dell'altro. Cioè addirittura un fili d'erba, tutti come gli altri, tutti i prati perfetti, precisi, eccetera. Tutti precisi, guarda, e mo questi qua che sono venuti per la prima volta, come l'ex sindaco di Francavilla, io gli ho detto, vedi, a Francavilla dovrebbe stare una cosa così, magari, beh, certo, magari. Poi altre cartoline da Pyongyang, raccontaci un po', quale altra cosa, diciamo, di ordine, guarda, hai visto, la gente com'è? La parata militare, straordinaria, militare, dici? Io lo consiglio a tutti una volta nella vita ad, sì, andarla a vedere, perché è una cosa impressionante, cioè, vedere la precisione di quanto camminano, come alzi i piedi, i battiti. Oh, io stavo proprio lì in tribuna a vedere, e io controllavo apposta, non vedevo un passo più alto dell'altro. Hai capito? Come cavolo faceva? Facevano questi qua? Ma come facevano a essere così? Sai le gambe? Come le parate naziste, no? Come le parate sulla, ma Piazza, certo, Rossa? Ma uguale, è una cosa incredibile. Beh, dice, è stato sai, io non lo vedo mai, allora una volta che lo vedo l'apprezzo, perché nel senso che lo vedi che fanno così bene, preciso, con tutta la, la, è che ci mettono passione, perché lo fanno con passione. Con passione, ma sti missili ci stanno o no, ste testate nucleari alla fine? Sì, ce l'avrà, sti missili. No, l'ha fatto sfilare, poi... Ah, l'hai fatto, tu hai visto sti missili, l'hai visto? Allora? L'amico Nello, l'ho fatto avere il miglior Trocchia. Posto, Nello Trocchia, sì. Il miglior posto... per riprendere tutta la, la, la manifestazione. Ecco, ma sti missili sono pericolose, però, se testate nucleari. Ma ti credo, no? Ma certo. In mano, guarda, al pazzo, Giuseppe, là, quello col ciuffetto, o no? Giuseppe, Davide, voi che siete due amici miei, sì. Te lo dico sempre da amico, sì. Quello non vogliono attaccare nessuno. È il presidente Kim Jong-un che ha fatto il discorso... che ha detto noi offriamo la pace. E noi non cioè sono infatti, uomini di pace secondo te i coreani, infatti, ma quale pace? Infatti io al numero due, ma quella gente pericolosa, al numero due, Ri Su-yong, come cazzo si chiama questo? Ri Su-yong, come si chiama? Da un nome un po' Ri Su-yong come riso che è il vice del leader, sì. Del maresciallo, il maresciallo abbiamo, sì. Fatto la fotografia con la bandiera della pace, io ho detto caro dobbiamo dare una dimostrazione. Cioè, secondo te un paese, secondo te sono pacifisti alla fine? Sì. Ma che pace? Ma cosa dite? Sono a favore della pace. Oh, Dio, ma quale pace? Ma minaccia un giorno si lascia pure le liberali democrazie? Assolutamente no. Loro hanno detto noi siamo pronti. Se ci attaccano noi attacchiamo. Giusto, secondo te? Cioè, secondo te tu, secondo te loro fanno bene a rispondere eventualmente a un attacco o no? Secondo te se ti danno un calcio in culo a te e tu che fai? Te ne fai, dici dammi un altro. Sì, però capisci che come dice la religione. Ti danno uno schiaffo e mostri l'altra guancia. No, rispondi. Io preferisco che le testate nucleari siano nelle mani degli americani che non nelle mani di un dittatore pazzo scatenato con il riporto, peraltro. Quindi guarda, su questo non ho dubbi io. Comunque, però, che hai mangiato lì? Hai mangiato qualcosa di buono, di strano? Qualche cosa strana hai mangiato? Qualche rettile? No, ti posso dire che, guarda caso, è il lunedì dell'Agnello, proprio, sì. Che stavamo lì ad andare all'aeroporto, mi ha fatto mangiare la pecora col riso. Pecora con riso. L'altro poco faceva una specialità teramano, la pecora alla caldaia, alla gallara. La pecora alla gallara. Senti, ma se ci fosse una situazione di tensione adesso nei prossimi giorni, eccetera, no? Uh-huh. Il signor Pepe che ti ha accompagnato ha detto che farebbe lo scudo umano anche per tornare. Tu faresti lo scudo umano in Corea? No, io sei pronto a tornare, diciamo, per fare quasi da scudo umano? Cioè, se c'è razzi, magari non attaccano gli americani, no? No, Giuseppe, guarda, io ho scritto a Trump, tu lo sai che ho mandato una lettera. Scritto che io... a Trump. In che lingua ha scritto a Trump? In abruzzese? In abruzzese. Ah, ecco, appunto. Le capisci pure. Allora, che hai scritto? Che dicendo cosa? Io ho mandato in inglese, me l'ha fatta uno. Sì, vabbè, certo. T'hanno tradotto. Ma normale, dai, normale. In inglese. E gli ho detto che io sono disposto a eventualmente andarci a parlare io. Sì, con Kim, no? Col pazzo là. No, non è assolutamente pazzo. Non è pazzo, cioè è una persona democratica secondo te? Ma guarda... Un uomo di pace. Una persona tranquilla, ma come dire... Un uomo di pace, si può dire un uomo di pace? Non è che posso. Sì, però voglio dire, ma tu faresti lo scudo umano lì? Cioè, saresti là pronto a impedire un attacco americano? Magari gli americani se ne fottono e bombardano lo stesso, però dico. Ma è chiaro questo, è chiaro che se ne fottono, non sta mica pensando Antonio Razzi. No, però andresti lì a fare da scudo umano, a proteggere la Corea? Io andrei se vengo mandato. No, io non è che vado per i cavoli miei. Non vai a fare lo scudo umano. Ma figurati, si fa i cazzi suoi. Se vengo mandato per... Cioè tu faresti l'inviato di Trump praticamente. Volentieri l'inviato di Trump, perché sai che Trump è un mio idolo. No? Ma lui lo sa, Trump, che ti conosce? Beh, io gli ho fatto la campagna elettorale. Ma che ne sa lui? Tanta gente. Vabbè, se lo sa, non lo sa. Ma credo che dovrà sapere, perché... Sì, potrebbe saperlo, sì. Lo potrebbe sapere. Allora, fermo un attimo. Collegamento fra poco da casa Razzi, di nuovo dopo la pubblicità, così completiamo il quadro geopolitico sulla Corea del Nord. Ma no, non presentarlo come fossi il direttore di una rivista internazionale di politica estera. Ma è un senatore italiano che è stato testimone della parata militare, capito? Con i missili atomici. Buonasera, amico Rom, sono Parenzo. Per lasciarti andare. Di centri sociali, bruciarli tutti col napalm. Suona una fisarmonica col napalm. Fiamme nel campo rom. Napalm. Tua madre lo diceva. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. Expo due anni dopo. Dall'Agenzia Europea del Farmaco che lascia il Regno Unito a seguito della Brexit al nuovo polo tecnologico universitario. Le possibilità offerte dagli spazi costruiti per l'esposizione universale sono la nuova sfida che affronta Milano. Il nuovo viaggio di Radio 24 dal 17 al 22 aprile, ogni mattina nel GR delle 7. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta La Zanzara. E ciao ragazzi, io non, è il primo messaggio che mando, una cosa veloce. Stasera stavo cercando qualcosa su Mauro Icardi e su Google scrivo Mauro e il primo nome che mi compare è Mauro da Mantova, cioè Mauro da Mantova al primo posto, Mauro Icardi al secondo. Allora ho detto minchia, proviamo a scrivere Donato, secondo posto Donato Binancia, primo posto Donato da Varese, porca troia. Che ti voglio dire, guarda, io se io adesso esco qui fuori, no? Mettiamo il caso che verso le... Verso, porca puttana, mi sta chiamando la zanzara. Siamo con Antonio Razzi che è tornato dalla Corea del Nord insieme a una delegazione, Parenzo, che ci ha testé descritto. Tra sì. Lui c'era, con lui c'era anche il senatore Bartolomeo Pepe. Che diceva Pepe, il senatore Pepe, caro Razzi? Che diceva? Fondamentale da sapere, no, cosa diceva Pepe. Era molto, molto contento e molto soddisfatto di questa missione. Ma il senatore Pepe è uno molto a favore della Corea del Nord, pure lui. Cioè... Sì, sì, no, ma anche perché gli piace il sistema, il metodo, che, non so, gli piace perché sono anche così... precisi, educati, puntuali, diciamo, quasi, puntuali, educati, puntuali, come tutte le dittature, no? Come, vabbè, ecco, per questo forse anche lui è rimasto stupito di questo. Comunque, ma ci vorrebbe da noi, che cosa dobbiamo imparare noi dalla Corea del Nord? Qual è la lezione che viene? Ci vorrebbe un po' di Corea del Nord in Italia? Io, Giuseppe, io dico sempre che l'albero si addrizza quando è piccolo, è inutile che quando è grande... l'albero si mette dritto quando è piccolo, cioè noi non, non ce la possiamo più fare, dice ormai. No, noi anch'io non ce lo posso fare perché sì, ma voglio dire, cioè, l'Italia secondo te funziona meglio la Corea del Nord dell'Italia? Ma in certe cose sì, in tipo? Certe cose tipo? Sì. Beh, dopo che non c'è la libertà di andare lì o di andare di là, questa è tutta un'altra cosa, perché lì è socialismo, non è che però è dici però, noi. Però alcune cose potrebbe lo potremmo anche copiare, tipo? Tipo quando riguarda l'ordine la pulizia, l'ordine dici, la pulizia. Ma più che altro fare le cose bene, ecco, ma per esempio una piccolezza che è una piccolezza, sì, dimmi. Di prendere la carta e di metterla in tasca e di non buttarla per terra, dico, ma cosa vuol dire questo? Ma questo lo fanno anche a Trento, no, ma cosa però, c'entra? Anche a Casteltesino lo fanno, questa roba qua faccio, ma cosa dice? Eppure non c'è nessuna dittatura, ma dice delle follie pazzesche. Io non lo butto per terra perché sono abituato in Svizzera all'ordine e io una cosa la metto in piazza, non butto per terra la carta, per cioè altre cose che dobbiamo bisogna che altre cose insegnare. Che dobbiamo imparare, quali cose dobbiamo imparare dalla Corea? Ci sono alcune cose che bisogna, ecco, sempre riguarda su queste cose qui, altre cose no, mi raccomando, mica noi non siamo una dittatura noi in Italia. Comunque approfitto della radio, ma quella è una dittatura, mi hanno mandato migliaia di SMS e WhatsApp, SMS di preoccupazione, di cose, perché ho visto così tanti amici che mi hanno sono vivo e che mi hanno augurato sia Pasqua che Pasquetta, Io purtroppo lì non funziona il nostro cellulare. Quando sono arrivato a Pechino ieri notte, è arrivato centinaia che non posso rispondere. Cioè, lo ringrazio tutti quanti. Ringraziamo tutti. Senti, ma alcuni dicono che quei missili lì, missili lì che si sono visti, sono finti, missili di cartapesta. Alcuni dicono. Questo non credo. Ma sono veri o no sti missili? Sì, saranno veri. Sì. Sono veri sti missili. Sì. Ma quindi è pericolosissimo quello che sta succedendo. Non ti fanno impressione questi missili? No, non ti fanno impressione. No, beh, impressione me l'ha fatto quando è passato vicino. Cioè anche noi dovremmo essere armati come loro, diciamo la verità. Ti piace? No, possibilmente non tenere nemmeno una pistola, ancora meglio. Però ritornerei al Medioevo, così ci sono solo i coltelli, così magari l'aggressore te lo vedi vis-à-vis. Adesso il Medioevo non era bello, proprio un tema. Capito? Così, invece così ti arriva mitragliatrice, se ti sparano non c'hai scampo, ecco. Vabbè, Anto, t'abbraccio. Va bene, ciao. Pronto? Pronto? Gioia pronto, mia, sento una voce strana, ma chi è? Pronto? Mi sente, pronto? Ecco, mo te sento, pronto? Baby, don't give it like it used to be. Baby, don't give it like it used to be. I show your face, love when I shine like I got no name. Love to make a little girl go and say, be my girl. Ritorna Tipi da Zanzara, vai! Tipi da Zanzara. Daniele da Roma, vai Daniele. Buonasera, ho telefonato perché sono molto rimasto deluso da quello che ha detto Parenzo e anche offeso. Sono un diacono della chiesa anglo-cattolica. Diacono, come fa una persona intellettuale dire tu sei che un vichingo. Cattolico vichingo può far sposare una bambina di 11 anni? La domanda è molto semplice. Ci mancava il vichingo. Perché ci sono un radical chic di merda, questa è la risposta. Sei vichingo o no? Io sono un diacono della chiesa anglo-cattolica. No, sei un coglione. Ho paziente il 22 giugno 2016. Sei il vichingo o no? Dimmi se sei il vichingo. Ma sì, dalla voce certo. Ma cosa cambia se sono il vichingo? Ma cambia o no? Tutto! Cambia sono tutto. Il credente! Sono il credente! Lei è quello che cantava. Come si chiamava quella canzoncina che cantava sto demente? Cruciani, come si chiamava quella canzoncina? Dovrai rendere conto a Dio! Aspetta, il vichingo. Il vichingo. Cosa canta? Questo signore che ora parla di religione e che dice a me che devo rendere conto, è un signore. Io mi chiamo Davide come il re dei giudei. Questo poveretto, questo matto di testa, Davide come il re dei giudei. Lei si chiama pazzo. Pazzo Davide, di mente, baccato in testa. Davide, questo signore che ora parla Davide, Fabri, di religione. Aspetta, stai zitto un attimo. Sostiene anche di essere, tra l'altro, erede naturale del Duce, no? Sì, sono pronipote di Benito Mussolini da parte di Donna Rachele. Ma non è vero, sì. non è vero. Del Duce penso tutto il male possibile, è ma una tragedia Rosa simile Guidi, non gliel'avrei augurata. Rosa Guidi. Sono un diacono, non sei un diacono, sono stato consacrato. Ma da chi? Da ma te stesso? Sei un idiota, sono dal vescovo anglo-cattolico di Roma. Ma qua non esiste. Ho i documenti in regola, ma a parte questo. Sei il vichingo, Davide il vichingo, uno che sostiene di essere erede di Mussolini. Ascoltami, un parente oggi di Mussolini. Alla basilica di Sant'Antonio a Padova. Che hai fatto? No, non lo sa nessuno cosa hai fatto. Nessuno, ho fatto, benedetto nessuno. La foto, l'icona di Vladimir Putin. Ma chi se ne frega? Mamma mia. direttore Gentili, non ti farà il culo a stelle e striscia, ma radica chic traditori del popolo occidentale. Ma devi... e ma perché non chiamano? Ma perché non ti rinchiudono da qualche parte, perché? Così puoi guarire? Perché non chiamano perché qualcuno? Perché non mi rinchiudono? Perché i magistrati di merda hanno pure paura di me. Ma chi perché ha paura? Nessuno ha paura. Hanno compassione, gli infami traditori che fanno morire gli italiani nelle macchine hanno paura di me. Gli infami traditori che portano via i bambini e i genitori poveri ma che dice? Hanno ma chi paura di me perché ho fatto mille denunce. Trasmissione realizzata con il contributo del Ministero della Salute. Il contributo fermi tutti. Un posticino dove non batte mai il sole. Questo sarebbe dove un diacono, tu, quando un diacono, vai nel bidet per lavarti, non sai neanche Mussolini. Io conosco Diaco, Pierluigi Diaco, non il diacono. Tipi da zanzara. Eccoci qui, andiamo a Napoli da Carmine, vai, vai, vai. Era il vichingo questo qua, il vichingo, Davide il vichingo. Quello che cantava quella canzoncina lì, cuccare sì, non cuccare. Dance, sì, ma sì, cucca dance. Vai. Oh, Carmine. Ciao, Cruciano. Buonasera. Dimmi, Carmine, dimmi. Ciao, senti, io volevo ritornare a quel discorso con cui avevate aperto, dell'ufficio legale fatto dal mio sindaco. Una follia totale. Sì, questa è una tecnica che è usata dagli sceicchi arabi, cioè quello di convogliare il malcontento del popolo che dovrebbe riversarsi contro di loro, invece sul grande Satana americano, per esempio. Sì, più o meno è la stessa tecnica, sì, ecco. Cioè attribuire agli altri delle responsabilità, cioè parlano male di Napoli, la colpa non è nostra, che magari commettiamo qualche errore, oppure abbiamo dei difetti che ci trasciniamo avanti da tempo, non è un problema magari nostro, napoletano, di incuria, eccetera. No, il problema è di chi ci critica, stessa operazione, ha ragione Carmine. Che è di Napoli, certo, peraltro. E tra l'altro un'altra cosa, il signor De Magistris, che ormai sono 6 anni che sta tra primo e secondo mandato, ecco, cioè, cominciasse a guardare un po' invece di guardare ste stronzate. No, ma quello si vuole candidare a livello nazionale, per cui deve sempre cercare il consenso. Ma questo a guardare i parcheggiatori abusivi. No, ma la cosa bella di oggi, la cosa bella di oggi, Carmine, non è tanti parcheggiatori abusivi, va bene, d'accordo, quelli ci sono ovunque, diciamo. Ce ne sono ma di più a Napoli. Il parcheggiatore abusivo per me è un dramma. Sì, no, Carmine, per carità, ma la cosa è una legalizzata che io sono costretto a pagare. Assolutamente, assolutamente, Carmine, la cosa più poi tu sei di Napoli e queste cose le sai. Insieme a questa notizia, cioè l'apertura di questo ufficio legale per portare in tribunale chi critica da parte dei magistrati, ce n'era un'altra. Sulle feste di questi giorni a Napoli ci sono state tante persone per dominano i venditori ambulanti abusivi. Cioè, esatto. Così ce l'ha scritto. Io combattesse quelli. Sono i commercianti che pagano le tasse. Sì, ma che c'entra chi critica Napoli? Dai, Clara, provincia di Udine, vai, Clara. Ciao. Dimmi, Clara. Buonasera. Volevo solo portare la mia testimonianza di moglie di un autista di autobus urbani. Moglie di un autista di autobus, sì. Dunque con turni lavorava pazzeschi. Domenica, no? Lavorava a Natale, la mattina, a Pasqua, a casa solo il 1° maggio. Siamo sopravvissuti, ecco, tutto lì. Tutto qua. Beh. Solo questo. Buonasera. Cioè, sei sopravvissuto. Il vostro rapporto è sopravvissuto al fatto che da 35 anni tuo marito lavora la domenica. È un'ottima testimonianza. Beh, diciamo che però in 35 anni evidentemente c'è stato qualcos'altro che ha tenuto insieme, o no? Beh, vabbè, c'è l'amore, quello c'è. Sì, ma tu sai cos'è lo squirting? Devo rifarmi a quello che parlava prima? Sì, lei, quella lezione. Tu quel sai, trattato. No, ma sono curioso, sai cos'è lo. No, ma dimmelo sinceramente, Clara, sai cos'è lo squirting? No, non lo so, l'ho sentito parlare prima. Ma non sai cos'è, non sapevi cosa fosse? No. Pazzesco. Non è fondamentale. No, ma è pazzesco. Perché c'è una grande ignoranza da questo punto, ma ignoranza non nel senso di mancanza di cultura. Cioè, magari. No, ignoranza nel senso che alcune cose dal punto di vista sessuale non sono conosciute. Magari tu da questo punto di vista non ti conosci fino a fondo, no? Fino in fondo, no, Clara? O sbaglio? Non ti è mai successo. Posso giusto per parlarne. No, è il posto giusto per parlare. Da questo punto di vista ti posso. Guardi, cara, se purtroppo c'è un posto nel quale parlare di queste cose, è solo questo. Lo dico contro. Oltre il che mio... naturalmente le case, il letto, non c'è dubbio. Io sarei per parlarne nell'intimità del proprio letto. Barra, cioè, per esempio, divano. Da 35 anni, no? Voi siete sposati da 35 anni. Ecco, le domande alla report. Ci sarà proprio, stato un momento, come dire, di stasi nel rapporto sessuale o no? Ma puoi parlare tranquillamente qui, Clara. Tranquilla. Ma è normale in una coppia, no? Che ci sono dei momenti di stasi. Cioè, per esempio, sono passati anni in cui non vi siete nemmeno sfiorati, toccati, sfiorati. O no? No, No, no, questo no, ma questo è importante sapere. E cosa vi ha tirato fuori da questo l'uso di oggetti che avete fatto? Ma no, ma questo lo so, vai, vai avanti. Ma magari domanda, è una coppia normalissima, Clara è provincia di Udine, una coppia magari normale che non ha bisogno, diciamo, di particolari fantasie, no? Non avete bisogno di YouPorn, film porno, oggetti sessuali, voyeurismo, eccetera, per mantenere vivo il, come dire, no? Il può capitare di tutto, ecco, questa è la risposta giusta. Beh, no, però dammi, a questo punto mi devi dare però una risposta più compiuta. Si vede, inviteranno degli amici a casa. No, ma dimmi una cosa sola. Una cosa sola, Clara. Cioè, cosa è successo dal punto di vista sessuale per mantenere un rapporto vivo? Ci sarà stata una cosa, no? Una cosa, un elemento, che ne so, uno scambio di coppia, un film porno, no, quello no, un film porno. Cioè, negli ultimi anni ci siamo, per risvegliare il desiderio sessuale, una siamo gang passati... bang, non lo so, cose normali, normali. Cosa è successo, Clara? Cose normali, cioè tipo cosa? Dimmene una sola, ma poi uscire, stare in intimità, stare insieme. Vabbè, quello che c'entra, ecco, uscire, stare in intimità, stare insieme. C'entra, sono cose importanti. Quando sì, d'accordo, ma non c'è stata una variante sul tema sessuale per mantenervi un rapporto? No, no, non cose no, no, no, cose strane, mucchi, mucchi, oggetti, non so io, oggetti mai usati, no, oggetti, cosa, oggettistica, no, no, niente. Qualche oggettino l'abbiamo usato, no? Vi saluto. Qualche oggettino. Grazie signora, buona serata e buona cena. Signora Clara, ti abbraccio, ti abbraccio. Giorgio da Milano per concludere, vai. Giorgio, vai. Oppure anche Marco, uguale. Pronto, Giorgio, pronto, vai. Pronto, pronto, Giorgio. Vai, dimmi, dimmi. Senti, io lavoro da anni alla grande distribuzione qui in Milano. Sì. E effettivamente ultimamente, sai, torni di qua, torni di là, festività natalizie. Sì, allora aboliamo tutto, dai, per mantenere con la moglie diventa un problema. Per mantenere unite le famiglie, lavoriamo di meno, lavoriamo di meno. Parenzio, non mi fare anche a me la domanda. No, Parenzio, di... poco male. La domanda non di fare... che cosa? No, magari mi chiedi anche a me cosa ho fatto per arrivare il rapporto con perché mia ne so, moglie. Io non mai, mai no, stiamo parlando di un'altra cosa, mica mi hai detto che sei non sposato. Non mi interessa nel modo più assoluto. Anche la signora ti ha chiamato per quello, gli hai chiesto, gli hai fatto 2000 domande, dai. Ho capito, lei è una donna, magari ah, era più, ecco, era più divertente. Un po' anche tu un po' un guardone come parente. Ma che fai, attivi no, tu le domande, niente, è bello che questo me attira, attira le domande, capito? Anticipa eccetera. Allora vuoi parlare di questo in realtà, eh? No. Cosa fai nel tuo reparto? Cosa fai nei bagni del tuo reparto, eh? No, cosa fai? Sono al reparto salumi. Già lì è tutto un programma. Vabbè, eh, una cazzata, una battuta del cazzo, dai. Ragazzi, no, sono a demain, a domani, ciao. Saluto. A presto, ciao. Io mi chiamo Davide, come il re dei giudei. Porta rispetto. Mi chiamo Davide, come il re dei giudei. Porta rispetto, infame. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lo dica, a casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Pronto! Radio 24. Libera la voglia di fare.